24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Noi diciamo basta ai precari e alla supplentite, però bisogna anche avere il coraggio di dire che si devono giudicare gli insegnanti e gli scatti di stipendio devono essere sulla base del merito, non sulla base dell'anzianità. Vabbè, dopo l'annuncite, eccola qui la nuova battaglia del Presidente del Consiglio, la supplentite. Oh ragazzi, siamo un paese malato evidentemente, dall'annuncite alla supplentite. Che dobbiamo dire? Questa è la nuova battaglia, parlavo ovviamente del piano scuola, ieri non in una conferenza stampa, ma in un, perché l'annuncite non va più bene, ma in un video messaggio per annunciare queste novità sulla scuola, un grande dibattito, un nuovo piano educativo che ci porterà nel 2015. Intanto ad assumere, siete contenti cari operatori della scuola, 148.000 persone, costo oggi quantificato sul Sole 24 Ore 3 miliardi di euro. In compenso non ci sono più soldi per gli statali. Gli aumenti sono bloccati anche per l'anno prossimo, per il 2015, se siete dipendenti pubblici. Questa è la situazione, certo si può vedere il bicchiere mezzo vuoto, appunto, non ci sono i tagli, non ci sono gli aumenti agli stipendi, si può vedere il bicchiere mezzo pieno, nel privato c'è gente che non è che ha perso l'aumento di stipendio, ha proprio perso il posto di lavoro. Va bene, sono le 6.32 minuti, questo è 24 mattino, c'è Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Pescapelli in regia e il nostro Parlamento può aprire. Oh, mi hanno detto basta con sto caffè della Minetti e noi abbiamo provveduto. Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. Però ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma guarda, no, ma glielo facciamo prendere il caffè. Con l'affetto e l'amicizia di sempre, potete incortesemente sparire e dematerializzarvi. Vabbè, abbiamo rottamato la Minetti. No, un po' mi dispiace. Caro Vincino, buongiorno. Ti abbiamo rottamato la Minetti. Hai sentito? Di solito ti offriva il caffè a tutti quanti. Cambiamo caffè, dai. La cavalcata di Renzi. Ce ne faremo una qualcosa. Una che tu senti Minetti che ti dà la testa. No. No, hai sentito Minetti e sei impazzito. No. Calmati, Vincino. Va bene. Vincino, ti voglio presentare una persona che per la prima volta è qui al Parlamento e che secondo me conosci. È un giornalista, è un autore televisivo, scrive sul Fatto Quotidiano, scrive su Pagina 99. Si tratta di Alessandro Robecchi, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Buongiorno Milan, molto bene. Ciao Vincino. Ciao Alessandro. Ai tempi, alcune vite precedenti ci frequentavamo. Che dovete fare? Una carrambata dovete fare. Nella stessa vita, non è che siamo affatto. Vincino sempre, no, come sempre. Vincino con sta scusa che fa satira, dice le cose più terribili, Alessandro, te lo dico, guarda, inizia a dire che quello è il peggiore ministro della storia, quello, poi dopo dice, ma no, io faccio satira, satira. Conosco come funziona il meccanismo. è uno sguardo, come dire, delicato della realtà, no? Com'è, non è che edulcorato quasi, no? Edulcorato vicino, direi di no. Cerchiamo di abbellirla poco, la rendiamo più simpatica. Più simpatica, no? La realtà. Ma perché cosa c'è che non ti piace? Ecco, cos'è la cosa che più non ti piace in questo momento? Tu che hai scritto La cavalcata di Matteo Renzi, edito, ricordiamo sempre, da Cairo, che è? È sempre il miglior editore sulla cara in edicola che c'è al mondo, certo almeno, sì, nell'Occidente, almeno. E che tra poco con 20 sì partiti, vabbè, ho capito, l'abbiamo già detto, è che tra poco ci sarà la supplementite, sì, va bene. E cos'è che però sta sbagliando, se sta sbagliando qualcosa? Tutto, Ecco tutto. Praticamente tutto sta sbagliando. Ma come? Ma sì, ma sta sbagliando tutto. Poi questa cosa qua fa il 3% a tutti i ministeri. Ma questo l'aveva inventato Tremonti. Il taglio del 3%, il taglio lineare. Non ci saranno tagli lineari, non ci saranno tagli lineari. Ma l'unico modo per fare tagli poi è quello alla fine. Ma chi l'ha detto? Se uno guarda le cose, forse cioè, è il modo più semplice. È il modo più semplice, ma non è che è l'unico modo. Ma ci ha messo Cottarelli, è quello che uno dei disgraziati peggiori della storia, no, per tagliare non c'è riuscito manco lui. Ma no, un dai, di fama, Cottarelli non è riuscito a tagliare più di qualche spicciolo là così. No, le cose, le partecipate delle regioni, come dire, no, là devono tagliare tutte le regioni. Ma hanno detto e continuano a dire: aspettate la legge di stabilità a metà ottobre, lì ci sarà tutto, capito? No, Milan, che c'è? Se lei, visto che è così attento alla carta, se ci decidiamo del lei, però, va bene, no, allora, visto che sei così attento alla carta, che costa? Se tu vai a recuperare qualche giornale del 10 aprile scorso, sì. Vedrai che a chi diceva attenzione ci sarà il blocco degli stipendi degli statali che è un taglio lineare, sì. La compagine renziana saltò su come una molla a dire gufi rosiconi, non è vero. Sì. Ah, ma dire gufi rosiconi è ormai è una cosa effettivamente che un po' infastidisce, cioè appena uno dice c'è qualcosa che non va, no, sembra esatto. Ho capito, però insomma avevano detto che non l'avrebbero fatto e oggi l'hanno fatto, ecco, insomma. E oggi l'hanno fatto. Ma lui non l'aveva mai detto, però. Effettivamente come? Non aveva mai detto non taglieremo, però effettivamente no, aveva detto a chi diceva verranno tagliati, aveva detto no, non è vero, è perché il DPF è così, ma adesso lo cambieremo, non ci saranno tagli lineari. Giornali del 10 aprile, basta andare a vederli. Eccola, vedi, caro Vincino, qui non si butta niente. Non si butta niente, Robecchi è un attento. Però gli statali, scusa, prima di tagli l'aumento, bisogna vedere se se lo meritano. Appunto. No, come ma infatti no, tu, io privato, licenziati e perdono il lavoro a vita. Gli statali, cavolo, che anzi hanno diritto all'aumento ogni due anni garantito. Ma sì, che è bloccato da un bel po'. Cioè, è bloccato dal 2010. No, finalmente, no. Finalmente posso dare. No, perché allora tutti gli statali potete scrivere a Vincino Web su Twitter. Questo no, perché di solito massacrano me. Ma no. Per quale motivo io merito l'aumento? No, ma io sto con Vincino perché massacrano me, cioè dire, ma nel privato si dice non bisogna fare macelleria sociale e nessuno vuol farla, ma nel privato la macelleria sociale con gente che ha perso il posto di lavoro dal giorno alla notte c'è e da tempo, quindi caro Milan, nel privato però c'è anche la gioielleria sociale, perché ieri un signore che faceva l'amministratore delegato se ne è uscito con 45 ma milioni sì, di ma l'amministratore delegato, ma non, ma non i dipendenti. Però, al mondo gli occhiali è uno scazzo Andrea Guerra, vi riferite ad Andrea Guerra, ex amministratore delegato con gli occhialetti, scusi quindi se citiamo il privato da un senso citiamolo anche ma da no, ho capito, ma io dico i dipendenti del privato, ci sono aziende che chiudono in estate per le vacanze, non riaprono più e quelli non è che sono tutelati dal fatto che hanno vinto un concorso pubblico quando l'hanno vinto ed è regolare. Magari il 10% avesse vinto il concorso degli statali. Vabbè, adesso il 10%. Beh, il 40% è entrato tramite DC, PC, PSI, così succedeva nel mondo. 40%. Ma tra gli statali contiamo anche gli insegnanti, vero? E beh certo, e questi invece verranno assunti 148. Quindi noi blocchiamo diciamo, gli aumenti contrattuali dal 2010. Sì. Sì. Degli insegnanti e assumiamo altri 150.000 insegnanti. No, ma tra l'altro cioè, oggi diciamo che c'è una pattuglia di non ricchissimi, diciamo, che guadagnano circa 1.800-2.000 euro al mese, che con i loro tagli finanziano l'assunzione di 150.000 colleghi. Però esatto, perché oggi il Sole ma sentite questa cifra, il Sole proprio lo scrive oggi: 2,5 miliardi li risparmiamo perché non aumentano appunto gli stipendi agli statali. 3 miliardi servono per assumere i 148.000 insegnanti che Renzi ha promesso di assumere l'anno prossimo. Quindi il saldo è negativo alla fine, bisogna pure recuperare. Ma alla fine possiamo dire, Milan, che i lavoratori statali finanziano l'assunzione dei loro colleghi. Vabbè, messa così facciamo una bella rissa sociale. Andate dipendenti statali, scrivete un tweet a Vincino e poi andate fuori dalle scuole a picchiare qualche insegnante. È lo slogan di Blair, prima scuola pubblica, scuola pubblica, scuola pubblica. A proposito di scuola, sentite... E quindi tagliamo i fondi alle paritarie, bravo Vincino! Bravo Vincino, tagliamo i fondi. Questo l'hai detto tu. Cioè, in realtà avete capito, sono un padre disgraziato che ha avuto delle figlie che hanno voluto studiare delle parità. Insomma, in realtà avete capito, cari ascoltatori, non è che a cuore erano insieme, cioè si picchiavano nella redazione di cuore Alessandro Robecchi e Vincino. Ma sentite, a proposito di scuola, Matteo Renzi, che cosa dice dell'inglese? Però ci vuole anche, ovviamente l'inglese è lingua madre, per evitare di parlarlo come lo parlo io, che è un globish più che un English, e ci vuole un investimento, come posso dire, in nuove tecnologie. In the next 1000 days, from September 1st, 2014, to May 28, 2017, we present a business plan for Italy. A business plan. Vabbè, questo non era male, Vincino, sta parte di inglese di Renzi. Ha detto l'inglese per non parlarlo come me. Insomma, bisogna investire nell'inglese. Però abbiamo preso questa parte. Non te la ricordi quando aveva parlato in inglese? Meglio di Pittella. meglio di Rutelli. Pittella e Rutelli erano dei livelli tipo... quelli, anche Orlando, sono dei inconcepibili. Ma è tutta gente che poi ha fatto un mese, due mesi di... Senti qua che fu fatto il rap. La, su Renzi, My mother, the invented to cry, in the TV one, in the TV one. In the feeling in the she found the Berlin Wall in the destroyed in the beginning. Vabbè, questa è una cosa che neanche Robecchi ai tempi di cuore riusciva a fare. Ma è una cosa che penso che l'italiano abbia delle difficoltà con l'inglese, un po' come i tedeschi con l'italiano. E certo, non lo studiamo, abbiamo fatto generazione a non studiarlo. Per cui io conosco tedeschi che stanno da 30 anni in Italia. Che hanno tutti l'accento tedesco, proprio di quelli che lo si capisce subito. E gli italiani, secondo me, con l'inglese sono... Io guardo un italiano che parla inglese, che tu forse draghi, ma insomma, che ne so, mia figlia o pochi altri. draghi mia figlia. Draghi, tua figlia e pochi altri parlano l'inglese. Vincino, è così, che devi fare. Ora bellino. Vabbè, c'è un ascoltatore che mi scrive via SMS, viva Robecchi, non capisco perché... Mentre un altro ascoltatore che mi scrive, che palle sti comunisti che paragonano, che dicono che paragonano guerra agli operai. Cosa vuol dire paragonano guerra agli operai? Ah, che paraguerra, pensa guerra all'amministratore delegato. Ah, pensavo la guerra. Questa mi sa Robecchi anche. Quindi, io. Quindi no, sei comunista, Robecchi? Perché? Ma no, non so più neanche cosa vuol dire. Vabbè. No, infatti. No, comunista non si può dire. No, non è un insulto. Sì, è un insulto. No, non lo so. Non è un insulto, è un po', diciamo... Retro. In questi tempi un po' anacronistico. Sì, diciamo. Dice Vincino, c'è solo Vauro ormai che è rimasto. E Vauro resiste, ma infatti siamo amici, diciamo. Ecco. Ah, vabbè, cioè, quindi voglio dire, sei amico di comunisti. Ma sì, ammiro che ci sia qualcuno che resiste, ma insomma, diciamo... Sono pochi. Allora, io da ieri ho iniziato a chiedere, e voglio chiedere lumi a voi che siete uomini di mondo, se esiste qualcuno in grado di psicanalizzare bene dentro nella mente di Massimo D'Alema. Perché infatti ieri, dopo la dichiarazione, il governo non sta facendo bene, è subito nato il classico dibattito. Vincino, che c'ha D'Alema? È rosica. Praticamente dal 1999 o dal 2000. Da quando non è più a Palazzo Chigi. Da quando l'hanno defezionato da Palazzo Chigi, lui ha sempre rosicato. Quindi proprio è un problema banale. Poi, di rosicamento. Aveva pensato questa storia dell'Europa pure lui, un anno e mezzo fa. E voleva essere al posto della Mogherini, probabilmente. Lui se lo meritava, aveva pure, era andato da Renzi a Firenze, avevamo fatto... fatto approcci, cose, nella sua, come dire, nel modo di D'Alema, sì, insomma, di fare avance, no? Che lui è sempre molto freddo, come dire, molto, diciamo così, no? Vabbè, ma tu come lo giudichi politicamente? È è bravo, è bravo. Testa di cazzo mondiale. No, completamente, guarda, fa satira, cari ascoltatori, è satira. Cioè, facciamo un referendum e vediamo. No. È un mondiale sì o no? No. Allora, Robecchi. Robecchi, per te invece qual è il motivo psicanalitico? Avrai psicanalizzato una volta la figura politica di Massimo D'Alema per capire che il suo problema è? Ma sì, si può dire, lo dirò con un giro di parole, non come ha fatto Mincino, ecco, che in un certo senso l'insuccesso gli ha dato la testa, diciamo, no? Ah. Però attenzione, perché ci sono poi anche nella diagnosi, diciamo, delle differenze, perché il fatto che uno rosichi non significa poi che ogni cosa che dice è sbagliata, Cioè, come diceva Kissinger, essere paranoico non esclude che qualcuno ce l'abbia con te. Anche l'orologio fermo una volta al giorno, anche un paio di volte, anche un paio di volte vicino, se non conti le ore sono le 15 e dici sono le 3, sono due volte. E quindi sì, io credo che nel fondo ci sia anche un po' di rosicamento, ma soprattutto secondo me dovuto al fatto che D'Alema è assolutamente convinto che qualunque cosa lui la farebbe meglio di chiunque altro. Ah, questo sì, ha un ego sicuramente spropositato. Potevi stare ancora un mese o due in Canada, così avevamo una radio più seria, meno ridanciana, Io volevo sapere perché tutti sanno che cosa bisogna fare e nessuno fa mai un cazzo. Per le complesse questioni di politica estera noi mandiamo la Mogherini, le sanzioni alla Russia, a Putin, io penso che sia stata una leggerezza. Io non sono un grillino, ma hanno ragione, non ci vogliono 3 anni per fare delle riforme, se uno vuole farle. Poi, per piacere, dai le notizie bene. Quando tu dici che 26.000 o quello che è delle province rimangono senza lavoro, è che non l'hanno mai avuto, hanno sempre avuto solo lo stipendio, Milan, dillo. Quanti ce ne sono? Lo stesso nella scuola, dillo. Gelatino, hai visto cosa ha fatto? Mille giorni. Fallo venire a Taranto per la scuola, sotto alla montagna dell'Ilva c'è una scuola. Gelatino, fallo venire a Taranto. You need 1,000 days until 2017. You speak to the people like ring, ting, ting, why don't you do right? And give some money to ciao. Get out of here and give me some money too. Vabbè, ragazzi, cioè, abbiamo la segreteria telefonica canterina, Vincino, ma ti rendi conto, i nostri ascoltatori? Bisognerebbe fargli un monumento di marmo, altro che... A proposito, altro che il tuo... Robecchi, tu la sai questa di Vincino? Tu lo sai che cosa c'ha a casa sul terrazzo? No, c'ha delle statue, che c'ha dei monumenti? No, ma non una statua, delle statue, Vincino, diglielo tu a Robecchi. La statua non va benissimo, quella di Andreotti, la statua di Andreotti. C'ha la statua di Andreotti. Male, famosa. Di Andreotti, rubata al male, se la tiene lì. Se la tiene lì. Cosa vaticina per il futuro di Renzi, la statua di Andreotti? No, per ora non mi affaccio fuori in questo secondo perché c'ho ancora un po' di febbre. No, io voglio dire, Robecchi, c'ho un ricordo bellissimo. Beh, ma Caserta, ma ieri l'altro ieri avrà detto qualcosa in questo periodo, in queste vacanze. È incazzatissimo con Rina che irrompe coglioni con le cose, quell'altro, ma, con l'album dei ricordi di Totò Riina. È una cosa quello là, il Riina Show. Però io, aspetta, ero inviato in Russia di cuore e al ritorno all'aeroporto c'era Robecchi, consegno di segni, le cose. Sì, mi ricordo, come no. Che momento sempre la Russia era vedi che è comunista, cioè comunque la Russia era l'anno di Helsinki sul carro armato, per cui è come ora, più o meno, che non cambiano, lì cambiano gli uomini ma le passioni non cambiano. No, ma fatevi far sentire D'Alema allora, perché qui c'è questa battaglia all'interno del PD e D'Alema si è risentito, perché dopo che ha detto che il governo non sta facendo abbastanza, dopo che se l'è presa con i quattro energumeni che su Twitter mi hanno insultato, vabbè, sentite D'Alema. Se persino un'osservazione banale, garbata, come quella che ho fatto io, ho dato atto al governo dei suoi sforzi, ho detto ma la situazione è questa, cioè i dati dell'Istat, se persino citando i dati dell'Istat si corre il rischio di essere insultati, come è capitato a me, non è facile avere una discussione allora democratica in un grande partito. Capito, Vincino? Lui ha fatto una riflessione garbata. Garbata. Come? Dell'Istat, che è come un taglio di testa di tagliete, la famosa istituzione. Però dai, il difensore di D'Alema, vai Robecchi, vai. Difendilo. Per carità, però cioè, garbata o non garbata, ma lecita, No, ma infatti cioè non è ancora obbligatorio dire che il governo Renzi è miracoloso. Quando diventa obbligatorio telefonateci a me e anche a D'Alema, magari già riuscite e ci avvertite. Però finché non è obbligatorio uno lo può dire, giusto? Sì, certo che lo può dire. Però può anche ricevere delle critiche. Ma assolutamente. Magari delle critiche nel merito, però, perché leggo sul Corriere della Sera un titolo con la Serracchiani che dice, tra virgolette, non devono ostacolarci. Sì, ha fatto un'intervista molto risentita, ecco, la Serracchiani. Siamo calmi, nel senso che uno può criticare, gli altri possono rispondere, però diciamo così, tirare fuori il solito repertorio di gufi e non devono ostacolarci non è esattamente la cosa più elegante del mondo. Per un governo che ha una larghissima maggioranza che comprende anche l'opposizione, oltretutto. Capito. Serracchiani è assolutamente, ha perfettamente ragione. Che c'ha la Serracchiani? No, la Serracchiani sembra quella scrittrice con Mussolini, quella, come si chiamava, non me la ricordo più ora, cioè il nome mi manca, no? Non ce la faccio a quest'ora da aiutarti adesso. No, lo so, ma io pure... Professor Vincino, se vi interroga di storia... Adesso non... No. Vabbè, comunque io a proposito di scrittrici, ho un mito da oggi, è su tutti i giornali. Ecco, sì. Lei che si sta prendendo una delle vendette più lente e più clamorose della storia di Francia. È l'ex premier Dame Valérie Trierweiler. Con le manciate di pillole che correva. No. Allora, è lui che le manda gli sms. No, ma c'è una cosa migliore. Valérie Trierweiler, detta Valérie Rottweiler Trierweiler, ha scritto il libro della sua relazione con Hollande e la cosa più clamorosa, ha detto: Hollande è un uomo che disprezza i poveri e sapete come li chiama in privato? I senza denti, e ride di questa battuta. Battutona. No, ma poi adesso io non lo so se è vero, ovviamente questa è la verità di una donna che è stata tradita. La miseria del socialismo francese, ineguagliabile. I senza denti, ma se fosse vero sarebbe una cosa che stronca qualsiasi carriera politica. Secondo te lei scrive che è una falsità su questo? Ma che ne so, ma scusa. Ma parlava pure dei suoi genitori lei. Assolutamente, ho non capito, credo. Ma ci avrà io un po' credo a tutto quello che lei dice. Tutto. Alle tutto. Donne comunque, bisogna credere. Visto che Orlando poi diceva alle sue numerose ragazze, diciamo così, diceva ti conquisterò come se tu fossi un'elezione. Sì. Ecco, diciamo che adesso questa me l'ero persa. Le questa probabilità sono scarsine, no? Questa me l'ero persa. Ma perché Vincino devi credere a tutto quello che scrive Valerie? È un po' ferita, è leggermente ferita. Ma perché come Vincino donna? Crede a tutto quello che fa casino e che gli piace. Ah, no? Perché fa satira. No. Ma è una donna indignata che scrive un libro così, le citazioni, è come un giornalista di Divaio che quando mette tra virgolette io gli credo, non è che sino a prova contraria io gli credo, è così. Va bene, comunque ci scrive. Quando io metto le virgolette vi prego di credermi. Sì, esatto, ci scrive su Twitter un ascoltatore, si chiama Candido, vabbè, Candido 1, diciamo, il suo account, la statua di Andreotti di Vincino tra mille giorni sarà battuta all'asta di Londra. Magari, guarda, ma no, magari. Ma se tu vuoi venderla, da non so. Magari. Ma tienila lì, ma è un cimelio che non puoi. Come dire, poi c'è, come dire, l'offerta che uno non può rifiutare, e via. Va bene, allora io vi devo salutare. A Vincino lo sentiamo presto. Robecchi, se si è divertito, noi siamo così, poi siamo virali e seriali, ti rompiamo le palle spesso al mattino presto, non lo so. Sono, però tu sei libero di poterci dire scusate, domani dormo, va bene? Intanto grazie, alla prossima. Alessandro Milan, ti metto le ali. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:16 e siamo qui. Cari ascoltatori, eccoci pronti a leggere i giornali e a ricordarvi i temi che tratteremo fino alle 9:30. Come sapete, questo orario che ci porteremo dietro fino al 15 settembre. Parleremo dell'attualità internazionale, dell'Iraq, della Siria, di cosa gli Stati Uniti sono disposti e pronti a fare ora per reagire dopo le due terribili esecuzioni, due giornalisti americani. E sapete che la minaccia da parte dei militanti terroristi dell'ISIS è quella di colpire ora un nuovo cittadino britannico questa volta. Avremo ospite Massimo Fini, che spesso su questi temi internazionali, anche per le sue posizioni molto molto nette, è ai nostri microfoni. Avremo ospite anche Edward Luttwak, anche lui lo conoscete, è uno che non lesina giudizi, così come Robert Fox, giornalista, esperto militare britannico, ci racconterà dall'Inghilterra come si sta vivendo questi momenti di grande tensione per questo cittadino che rischia di essere la prossima vittima. Parleremo poi della TASI, cari italiani, la tassa che va pagata, questo alle 9 avremo ospite il sindaco di Positano che ha deciso di cancellare questa tassa, dicendo sulla casa gli italiani non devono pagare. Con lui anche il rappresentante dell'ANCI per la finanza locale, il sindaco di Ascoli Piceno. Bene, questi sono i temi e gli ospiti, ora andiamo a leggere i giornali. Ed è in questo giovedì 4 settembre che i titoli ci raccontano come per il Sole 24 Ore per gli stipendi pubblici blocco anche nel 2015. Questo è uno dei titoli che più ricorre nei giornali, come per il Corriere della Sera, statali stipendi ancora fermi, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano, Renzi taglia come Tremonti e toglie soldi agli statali. Mentre il Messaggero, statali congelati gli stipendi. Il Giornale, finiti i soldi per gli statali, bloccati tutti gli stipendi. E anche il Secolo XIX apre su questo tema, statali stipendi congelati. l'attualità internazionale per Repubblica: Obama alla NATO, uniti contro la Jihad, tregua in Ucraina, ma Kiev un inganno. Questo è il titolo di prima pagina di Repubblica. Mentre Libero, Renzi si compra 200.000 voti, è quello che viene definito da Libero il piano clientelare per la scuola. La Stampa invece: crisi dall'Unione Europea, un aiuto all'Italia. Mentre il Manifesto anche si concentra sulla scuola, il titolo è come sempre molto esplicito e negativo, in questo caso per il Manifesto: pacco educativo, non il patto educativo evocato da Renzi, ma il pacco educativo, secondo il Manifesto. Avvenire invece: scuola, nuovo patto, assunti in 150.000. Va bene, da cosa voglio iniziare? Beh, voglio iniziare dall'articolo che riguarda l'Expo e che riguarda la disfida, la potremmo chiamare così, dei bronzi di Riace, che sono a Reggio Calabria, ma che sono poco valorizzati per molti perché incassano pochissimo, poche persone vanno a vederli, e quindi l'Expo, l'organizzatore dell'Expo di Milano, con anche il presidente della Lombardia Maroni, ha chiesto formalmente di avere i bronzi per essere esposti all'Expo, valorizzarle anche dal punto di vista economico. Ebbene, è arrivato ufficialmente il no, pare, da parte di Matteo Renzi, con tanto di scaramuccia verbale con Maroni, che lo ha definito un bambino viziato. No, forse viziato no, fa il bambino, fa i capricci. Vabbè, insomma, che fa i capricci è viziato un po' la stessa cosa. I bronzi restano a Reggio, all'Expo invece Leonardo e Guttuso. Così Pierluigi Panza, pagina 23 del Corriere della Sera, racconta che per l'Expo 2015 padiglioni vari sono impegnati ad accaparrarsi chi Giotto, chi Leonardo, Caravaggio, Canova, Guttuso, Morandi, e piatto forte i bronzi di Riace, che sarebbero pure arrivati forse se ieri invece il premier Renzi non avesse dichiarato che è meglio stiano a casa, altrimenti come si fa a valorizzare Reggio Calabria? Risposta a stretto giro da parte di Maroni, che dice: fa i capricci come i bambini, ha replicato al premier. Tra l'altro il Corriere della Sera fa notare che pure il renziano doc Oscar Farinetti, vale a dire il guru di Italy, ha detto: io i bronzi li porterei di corsa a Milano, anche perché le città investite dal lusso turistico saranno Venezia, Torino, Firenze e Roma. Insomma, l'osservazione a Renzi è: ma chi venendo a Milano per l'Expo fa, come dire, un salto a Reggio Calabria per vedere i bronzi di Riace? Non sono proprio dietro l'angolo rispetto a Milano, e allora forse invece portarli a Milano potrebbe servire a valorizzarli. Anche sul Quotidiano Nazionale il titolo è: arte, veleni, bronzi all'Expo, lo stop di Renzi. Maroni è furioso e dice: sei un bambino. Questa è la scaramuccia sui bronzi di Riace, ma state tranquilli che non è finita. Mentre continuano sempre i misteri, vabbè, ma ragazzi, questo Antonio Razzi, ne vogliamo parlare? Uno su Twitter mi ha scritto: è l'unico senatore della Repubblica Italiana, o meglio onorevole, l'unico politico che ti fa porre sempre la stessa domanda: c'è da ridere o c'è da piangere? Razzi non si ferma. Dopo una serie di giri, e dopo l'ultimo giro in Corea del Nord, fa un'intervista dietro l'altra, viene intervistato anche da Franco Bechis per Libero, e parla di questa Corea del Nord. Tra l'altro dice: l'inizio è spassoso, è dei suoi, è alla Razzi. Sapete, mi ha invitato in studio anche Vermigli. Vermigli, gli chiede. Ma sì, quello della 7, Formigli, Corrado Formigli si chiama. Ah sì, lui, quello di Piazza Finita. Piazza Pulita, gli dice Franco Bechis. Vabbè, ma Razzi è così. E poi racconta questo viaggio: ma non c'ero solo mica io, a parte Salvini, c'erano tutti, c'era il Movimento 5 Stelle, c'era la Lega, SEL, Forza Italia, il PD. Dei 5 Stelle c'era per esempio Gianluca Gastaldi. Questo dice, quindi c'era anche un grillino, racconta nella sua intervista. E poi i soliti racconti: Corea del Nord, lui che viene trattato come un mezzo principe, e vabbè, e abbiamo rilanciato i discorsi sulla pace. È Antonio Razzi, signore e signori, che dobbiamo aggiungere, è così. Detto questo, mi ha interessato molto un articolo che trovate su Repubblica, un'intera pagina, pagina 25, che riguarda i sindaci e le pubblicità sessiste e volgari. È molto interessante ciò che scrive Cristiana Salvagni, perché se andate in qualsiasi città magari vedete dei cartelloni con delle pubblicità che lanciano dei messaggi sinceramente ambigui. E ora basta pubblicità sessiste o violente, i sindaci potranno oscurarle. Racconta Cristiana Salvagni, i comuni dichiarano guerra alla pubblicità sessista e violenta, quella con il messaggio tipo Giorgia Celeste, Stella Adriana, provale tutte, una tira l'altra, che intende la varietà di ciliegie trovate e coltivate dai produttori locali, ma in primo piano sul manifesto vengono schierate ammiccanti ragazze in lingerie. Oppure lo spot dell'ottico che è vicino al te la do gratis, la montatura, mette una bella donna con gli occhiali. O ancora la pubblicità che ricorda i più feroci femminicidi, elimina tutte le tracce, assicura lo slogan di un panno per la casa tenuto in mano da un uomo stralunato con alle spalle un piumone da cui spuntano nude e scomposte un paio di gambe femminili. Ebbene, d'ora in poi questi slogan ambigui o giudicati offensivi, usati per reclamizzare prodotti più strampalati dal gommista che scrive «revisionami», dice la donna discinta distesa sotto una macchina. Oppure il compro oro, tu dove glielo metteresti accanto alle curve seminude di una starletta televisiva? Bene, queste pubblicità avranno vita difficile. Sono sempre più i sindaci, infatti, che dicono basta alle pubblicità discriminatorie a suon di delibere e modifiche al regolamento comunale, dunque che oscurano pubblicità considerate volgari o sessiste. Questo lo trovate su Repubblica a pagina 25. E poi non c'è giornale che non dedichi una pagina intera, e questo in Italia, pensate cosa sta succedendo in Francia, alla vendetta. Parliamoci chiaro, è una vendetta vera e propria che Valérie Trisweiler, vale a dire l'ex Premier Dame, tradita da il presidente olandese Hollande, si è presa con un libro che esce oggi. Grazie per questo momento. Ieri, per la verità, il suo primo giorno d'uscita, è già in testa nelle vendite di Amazon, stampato in segreto in Germania in 200.000 copie, racconta la vita con Hollande. Ovviamente non si fa risparmiare dettagli vendicativi, poi verità non verità, prima avevamo Vincino che ha detto io credo a tutto quello che dice per filo e per segno l'ex Premier Dame, che racconta ancora di ricevere 30 sms in un giorno da Hollande che vuole riconquistarla, ma che soprattutto distrugge Hollande quando dice di lui in privato lui odia i poveri, che chiama gli sdentati. Questo è davvero un colpo basso per il presidente francese. Infatti il titolo del Corriere della Sera è proprio questo: Hollande, secondo Valéry, socialista ma odia i poveri, li chiama gli sdentati. Ma sentite qui sul giornale: Hollande è bugiardo e odia i poveri, ridicolizza chi non ha nulla chiamandolo sdentato. E ovviamente ci sono tante analisi, soprattutto di donne che scrivono è giusta o meno la vendetta come piatto da consumare freddo. Valérie, lady dalle unghie affilate, il mio Hollande che miserabile. Il presidente viene dato per sconvolto in una reazione già all'Eliseo, questo in una pagina del quotidiano nazionale, ma anche Repubblica, la vendetta di Valérie. Hollande mi scrive fino a 29 sms al giorno, vuole riconquistarmi. Racconta anche della sua vita travagliata, dei sonniferi, degli antidepressivi che ha dovuto prendere dopo questa vicenda di tradimento pubblico da parte di Hollande con Julie Gayet. E vabbè, questo lo trovate per gli amanti del gossip, ma anche delle relazioni tra potenti. Sarà vero? Non sarà vero quello che scrive Valérie? Vi lascio con questo atroce dubbio, atroce pubblicità. Oh, il pubblico, ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Alessandro Milan, il giornale parlante dell'informazione. Il giornale parlante. Vabbè, non è male, non è male. Potete, come sempre, mandarci le vostre siglette, eh? Che ne pensate? Mandatecele, dovete mandarle nella segreteria telefonica 024692. No, non lo so. La segreteria telefonica, guarda, questo. Io so il numero verde, vediamo un po', L'ho trovato. 024652 4492, è lì che dovete mandarci le vostre siglette per la rassegna stampa e noi poi ci divertiamo a metterle in onda. Allora, cari ascoltatori, da che cosa ripartiamo nella lettura dei giornali? Beh, ripartiamo dalle notizie con le quali aprono i quotidiani. Primo fra tutti la notizia che aleggiava un po' come una nube minacciosa per gli statali dipendenti pubblici italiani, che ieri è stata confermata dal ministro Madia. Blocco contratto statali anche nel 2015. Io attirandomi subito gli strali di molti, però ho scritto su Twitter: si può vedere il bicchiere anche mezzo pieno, perché è vero, è dal 2010 che c'è il blocco dell'aumento degli stipendi per gli statali dipendenti pubblici. Nel privato, più che il blocco degli aumenti, ci sono persone che da un giorno alla notte hanno perso il posto di lavoro. Quindi se uno vuole vedere come dipendente pubblico il bicchiere mezzo pieno, può dire che vabbè, almeno il posto di lavoro c'è. Comunque, Davide Colombo racconta tutti i dettagli sul Sole 24 Ore a pagina 7. Anche la riforma Madia, come era successo alla riforma Brunetta, non volerà sulle ali di un rinnovo del contratto del pubblico impiego. Ieri il ministro della semplificazione ha anticipato in Senato che il blocco dei contratti degli statali sarà confermato anche per il 2015 con la prossima legge di stabilità. Ha detto Madia: in questa situazione in cui il governo è impegnato a tirar fuori il paese dalla crisi, l'alleanza prima di tutto è con chi ha più bisogno, quindi confermiamo gli 80 euro che vengono destinati anche ai dipendenti pubblici, ma in questo momento le risorse per sbloccare i contratti non ci sono, perché l'Italia è ancora in una situazione di difficoltà economica. I calcoli fanno pensare che grazie a questo non aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici ci sarà un risparmio per lo Stato tra i 2,1 e i 2,5 miliardi di euro. Ovviamente i sindacati sono subito insorti a dire: così il Premier non va bene, non rispetta i patti, minacciano scioperi. Tra l'altro è interessante le due cifre che il Sole 24 Ore mette, diciamo, anche visivamente nelle due pagine frontali, pagina 6 e 7, perché a fronte di questo risparmio che può arrivare fino a 2,5 miliardi di euro per il blocco degli statali, c'è invece, racconta Claudio Tucci, e passiamo al tema della scuola, la questione di 3 miliardi. 3 miliardi serviranno per assumere nuovi professori, che sono in totale 148.100. Questo è uno dei cardini sul piano, nuovo piano, o meglio nuovo patto educativo che ieri il governo ha lanciato con Matteo Renzi e che prevede appunto l'assunzione di 148.100 unità per un esborso di 3 miliardi per lo Stato. Verranno immessi in ruolo tutti a settembre del 2015, un'operazione che avrà un costo, per la verità il Sole scrive, di oltre 3 miliardi, circa un miliardo solo per settembre-dicembre 2015, che dopo 5 anni salirà come cifra 3,6 miliardi, dopo 10 anni si arriverà come cifra per questo tipo di assunzione a 4,1 miliardi. Quindi, diciamo, se uno le vuole mettere così, è chiaro che non sono compensative l'una dell'altra, però nello stesso giorno apprendiamo che si risparmia, per quel che riguarda lo Stato, 2,5 miliardi, stando larghi, e invece ci si impegna fino a 3,6 miliardi per assumere 148.000 persone nella scuola. Non è solo ovviamente quello delle assunzioni uno degli elementi costitutivi di questo patto educativo. Il Corriere della Sera con Valentina Santarpia racconta, pagina 4, dai precari alla valutazione, ecco il piano scuola che è online ed è stato messo online. Sono 136 pagine di racconto di come si vuole rivoluzionare la scuola italiana. Gli slogan sono: basta i precari, basta la supplentite, ma anche viva il merito. E dunque la possibilità di valutare non solo per scatti di anzianità ma anche per merito gli insegnanti. I punti sono 12 di fatto. Un piano per assumere i precari, l'abbiamo detto. Dal 2016 si diventerà docenti di ruolo solo per concorso, senza liste d'attese. Poi superamento delle supplenze brevi. La valutazione, cambiano gli scatti. Ogni 3 anni 2 docenti su 3 avranno un aumento in busta paga di 60 euro in base alla valutazione della qualità del lavoro. C'è l'obbligo di una formazione continua. Dal 2015, in norma alla trasparenza, saranno messi online i dati sulle scuole su bilanci, valutazione e progetti. Per questo il preside manager, diciamo, diventa una figura centrale. Poi altri punti, comunque sono 136 pagine, sono state messe sul sito passodopopasso.italia.it in modo da far aprire anche un dibattito pubblico con i cittadini. Come ha detto Renzi, criticateci ma aiutateci a cambiare la scuola. E ovviamente molti giornali aprono su questo come notizia politica del giorno. Certo, la questione sono proprio i soldi. Dopo l'intervista che ieri Matteo Renzi ha fatto al direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, nella quale ha annunciato tra le altre cose che la spending review sale per l'anno prossimo non a 20 miliardi dai 17 che in realtà erano stati preventivati fino a poco fa, e allora bisogna trovare altri 3 miliardi. Come racconta Luca Cifoni sul Messaggero, ministeri, regioni, comuni, il governo cerca altri 3 miliardi. E qui c'è la critica sui tagli cosiddetti lineari e i tagli che il Fatto Quotidiano mette in prima pagina dicendo: ma questi sono i tagli alla Tremonti. E infatti il titolo del Fatto è questo: Renzi taglia come Tremonti. Secondo tutti, il premier intende chiedere a tutti gli enti una riduzione fissa della spesa pari al 3%, cioè 3% per tutti. È la classica formula, appunto, dei tagli lineari. Ed ecco che su questi 20 miliardi annunciati da Matteo Renzi è ovvio che bisogna adesso andare a cercare nei vari enti dove trovare quei 3 miliardi in più, visto che si preventivava una spesa da 17 miliardi. Il sospetto, è solo un sospetto per carità, Franco Bechis su Libero scrive però che è una certezza più che altro, è che come al solito la via più facile sia quella di reperire dei soldi con andando a sfruculiare, andando a cercare quella nelle tasche di noi tutti cittadini. Il titolo di Libero è: Matteo si riprende gli 80 euro con il fumo. È l'aumento delle accise sugli articoli da fumo che è in arrivo. Arriva la prima stangata sui fumatori di ogni genere, firmata dal governo Renzi in un decreto legislativo trasmesso da Maria Elena Boschi al Parlamento. A fine agosto è previsto un riordino delle accise sui prodotti da fumo che non risparmierà né fumatori di sigarette e sigari tradizionali né gli amanti delle sigarette elettroniche. La manovra consentirà allo Stato di incassare 163 milioni all'anno in più grazie a un mix di disposizioni favorevoli, tra cui l'abolizione dell'imposta sui fiammiferi e di norme fiscali introdotte nel 2013 e il rincaro di sigarette. Ecco, il conto alla fine è salato. Secondo Libero, potrebbe portare a un aumento di circa 20 centesimi a pacchetto di sigarette e a una vera stangata sulle ricariche con nicotina per le sigarette elettroniche, visto che viene invece esclusa la tassazione sui componenti elettronici. Staremo a vedere, ma il dubbio di Libero è questo qui. Franco Bechis, pagina 5, arriva la stangata per i prodotti da fumo. Oh, invece, io ve l'avevo detto ieri dopo le dichiarazioni che hanno suscitato un aspro dibattito all'interno del Partito Democratico, le dichiarazioni erano quelle di Massimo D'Alema, che spesso i nemici a sinistra o comunque gli avversari politici sono proprio all'interno della stessa coalizione, dello stesso partito. Dopo che D'Alema ha fatto una critica al governo dicendo che non si sta muovendo in questo momento con risultati soddisfacenti, è partito subito il dibattito. Secondo Maria Teresa Meli, nel retroscena quotidiano che racconta sul Corriere della Sera su quello che succede attorno a Matteo Renzi. Matteo Renzi esplicitamente ha detto ai suoi: D'Alema lavora contro. Questo è il titolo del Corriere della Sera, che mette insieme a questa un'altra notizia. Renzi non andrà a Cernobbio. Questo è in prima pagina. Maria Teresa Meli: nessuno dei suoi predecessori negli ultimi 20 anni ha disertato l'appuntamento, mentre Matteo Renzi al Forum Ambrosetti, che si apre domani a Cernobbio, non ci sarà. D'altronde non ama quello che lui chiama l'establishment. Ieri nell'intervista al Sole 24 Ore ha detto chiaro: togliamo l'Italia dalle mani di quelli che vanno nei salotti buoni, e quindi ribadisce: no, non andrò a Cernobbio. È la prima volta, ripeto, scrive il Corriere, di un premier dopo 20 anni, da 20 anni a questa parte. E poi questa frase ai suoi collaboratori: D'Alema lavora contro di noi. Così ha detto Matteo Renzi. Tra l'altro, dopo le frasi di D'Alema, ci sono due interviste ai due vicepresidenti del PD. Sul Corriere della Sera è Deborah Serracchiani, che è intervistata da Tommaso Labate, dice: ma insomma, non lo so, D'Alema sta attraversando un momento di sofferenza personale, magari. E l'accusa è sempre quella, cioè voleva il posto che è stato occupato poi da Federica Mogherini. Comunque il titolo dell'intervista di Deborah Serracchiani è: non devono intralciarci le debolezze di chi pensa che non arrivi mai l'ora della pensione. E beh, torna il concetto di rottamazione. E invece l'altro vice segretario del PD, Guerini, fa un'intervista sulla Stampa ad Amedeo La Mattina e dice: gli attacchi di D'Alema sono superficiali e ingenerosi. È forse arrabbiato con il fatto che è stata scelta Federica Mogherini? Risponde Lorenzo Guerini: dobbiamo essere tutti solidali con Mogherini, ha preso una responsabilità importante, dimostra già una grande capacità. Insomma, D'Alema che si è difeso ieri, sono stato attaccato, viene considerato in questo momento il rivale più accanito nei confronti di Matteo Renzi. A proposito di rottamazione, saluto Mauro. No, quest'anno per ora non avevo trovato degli spunti per farti arrabbiare. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Bene, grazie. Guarda che è pericoloso parlare di rottamazione, sì, comunque, di questi tempi, perché anche, non so, per l'ora della pensione però ci potremmo anche ragionare, insomma, non tu che sei giovane e hai decenni e decenni, caro mio, di rassegne davanti se vuoi arrivare. Senti, parliamo un po' dell'Euribor. Sì. Ecco, no, perché oggi c'è un consiglio della BCE e se tu guardi a pagina 3 del Sole 24 Ore, un'interessante analisi di Maximilian Cellino ti dice che forse l'Euribor potrebbe anche diventare negativo. Tu dici: chi se ne... No, perché quel tassetto lì è quello che spesso governa i nostri mutui a tasso variabile, quindi potrebbe incide sui mutui di milioni di italiani. Esatto, e ci collegherei anche questo, che siccome oggi ritorna a casa 24, sai che il giovedì noi abbiamo queste pagine dedicate proprio al mondo immobiliare, apprendo sempre dalla pagina di Casa 24 che c'è stata in agosto una ripresa nella domanda di mutui. Chissà, poi non voglio dire altro perché... Sei malizioso, come dire, No, non sono malizioso, collego due fatti che c'entra. No, però attenzione, perché comunque lo spread che poi i singoli istituti di credito applicano comunque resta altino. Vabbè, comunque tutti i dettagli sul Sole 24 Ore di oggi, caro Alessandro. Invece oggi su Radio 24 tu non lo vuoi dire, nonostante faccia all'inizio della tua trasmissione una presentazione dei vari argomenti che andrai a trattare, oggi su Radio 24 si parlerà di Facchetti, Giacinto Facchetti. Certo. Sono in piedi in questo momento per pronunciare il nome del capitano. Certo. Quindi alle 10.05 la trasmissione su Facchetti. So che questa cosa ti disturba particolarmente, ma io insisto. Un grandissimo personaggio. Tu sai che di fronte agli uomini che hanno fatto la storia dello sport mi inchino anch'io. Molto bene, questo ti fa onore. Senti, guarda che c'è una ripresa di assunzioni in agricoltura, comunque, se ci rottamassero, sì, però ho letto che i giovani va bene, c'è no, una ti ringrazio imprenditoria di under 35, ecco, appunto, anni. Quindi vedi che sono fuori e tu sei già fuori anche da lì. Beh, certo. Vabbè, insomma, vedremo che cosa possiamo fare, magari una piccola società tu ed io, braccia rubate l'agricoltura, tutte e quattro le nostre. E non scordarti l'F24 online, per favore. No, assolutamente. Ecco, norme e tributi, ci torniamo oggi, ne parliamo ancora, c'è questa soglia che arriva dal 1 ottobre, per i 1000 euro si va solo online, quindi torniamo a spiegare come si fa a utilizzare questa nuova modalità, mi sembra un dettaglio abbastanza importante. Oh, e poi attenzione alle parodie, eh? Perché tu fai lo spiritoso spesso, guarda che la Corte UE ha detto che la parodia, se poi è discriminatoria, l'autore la può anche impedire, la può bloccare, quindi tutto questo naturalmente dove l'ho letto, dove posso averlo letto, su Sole 24 Ore, e ma su nelle pagine di norme e tributi. Esattamente, è il mio momento, Alessandro, è il tuo momento. Ah, il momento che attendevo. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Oh, questo era il primo, l'originale, no? Il germe da cui si è sparso poi questo virus fantastico di tutte le vostre siglette che potete mandare nella nostra segreteria telefonica, il panettiere dell'informazione. Allora, per chiudere un po' la pagina politica italiana, c'è da dire che il Corriere della Sera racconta che Berlusconi, che da giorni è silente dal punto di vista delle dichiarazioni pubbliche, ha però sentito nei giorni scorsi, è trapelata questa notizia che venne scritta sul Corriere della Sera, oltre a Putin, e questo si è già stato scritto nei giorni scorsi, anche Matteo Renzi e anche Federica Mogherini, alla quale Berlusconi ha portato tutti i complimenti e ha voluto sapere il punto della situazione, perché, racconta il Corriere della Sera, è soprattutto preoccupato dai riflessi delle crisi internazionali, per questo sente spesso Putin, non ha mai fatto mistero di essere amico del leader russo. Palazzo Chigi non smentisce né conferma le ricostruzioni, compresa quella di un nuovo appuntamento che Berlusconi si sarebbe dato con Matteo Renzi, questa volta invece per tornare a parlare delle riforme italiane in questa ripresa autunnale. E a proposito di pagina internazionale, ricordo che dalle 8:15 noi parleremo di come l'America reagirà, prepara la risposta all'ISIS, questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 10 con Marco Valsania, cioè come l'America risponderà a queste due terribili decapitazioni di giornalisti americani. E poi sapete anche la Gran Bretagna ora trema perché, racconta Repubblica, Londra con il premier Cameron, siamo pronti a tutto per salvare Haines. David Cawthorn Haines è il britannico che viene identificato da coloro che hanno decapitato i due giornalisti americani e sarà la prossima vittima. A proposito di questo, c'è la testimonianza di Daniele Mastrogiacomo, inviato di Repubblica, che ricordate qualche anno fa fu catturato da un gruppo di talebani in Afghanistan, e racconta in maniera molto intensa quello che è il senso di una prigionia. 7 anni fa, scrive Mastrogiacomo, sono stato rapito da un gruppo di talebani assieme ai miei amici e colleghi Ashmal Naqshbandi e Sayed Agha. Per 15 giorni siamo rimasti nelle loro mani, nel cuore dell'Helmand, provincia meridionale dell'Afghanistan, legati mani e piedi, interrogati e picchiati. Abbiamo sperimentato la durezza dei jihadisti. Ci hanno condannato a morte per spionaggio, per dimostrare al mondo quanto fosse serio il loro verdetto. Hanno decapitato davanti a me il giovane Sayed, padre di 5 figli. Ajmal morirà più tardi, anche lui per decapitazione, dopo essere stato riacciuffato dai nostri sequestratori. Davanti agli ultimi 2 video messi in rete dai macellai dell'ISIS, pensare con angoscia a quei giorni è stato inevitabile, per le immagini che ti catapultano in quella landa deserta vicino al fiume Helmand, trasformata nel teatro del patibolo, per alcune importanti differenze. Steven Sotloff e James Foley sono rimasti 1 anno prigionieri dei loro carcerieri. Trascorrere tanto tempo con un vero esercito di esaltati che ti disprezzano ma ti accudiscono come un prezioso tesoro in un territorio devastato dalla guerra significa vivere con la morte che incombe ogni minuto nel giorno e della notte. Solo quando cala il buio e tutto è avvolto dal silenzio hai un attimo di tregua. Riesci a calmare l'affanno, il cuore rallenta. Non ti soffoca l'attesa del tuo momento, quella in cui ti troverai davanti al boia padrone del tuo destino, ma resti teso. Hai imparato a conoscere la doppiezza, le bugie dei tuoi carcerieri. Sai che puoi morire, ma non fai in tempo a pensare, a rivedere la tua vita come un film, a immaginare l'orrore, il dolore del coltello che ti squarcia la gola. vuoi continuare a vivere. Steven Sotloff e James Foley non avevano gli occhi bendati come è capitato a noi tre quando sono stati uccisi, eppure indossavano la tuta arancione dei detenuti di Guantanamo, i capelli rasati, la barba appena fatta. Erano stati preparati con cura per lo spettacolo che avrebbero dovuto interpretare. Fa parte del rituale. I Taliban, come i jihadisti in genere, sono ossessionati dal carcere speciale americano e dalla base di Cuba. Vogliono dimostrare a te e al mondo che sono più umani, che trattano i loro prigionieri quasi con garbo fino al momento dell'esecuzione. Il dettaglio del viso aperto, senza bende sugli occhi, fa pensare appunto a un effetto più crudele e devastante da un punto di vista mediatico, per chi subisce la decapitazione e per chi la vedrà sul video. E poi continua, insomma, un racconto anche drammatico di Daniele Mastrogiacomo, che rievoca il suo lungo incubo di 7 anni fa, rapito dai talebani. Tra l'altro sul Sole 24 Ore, scusate, sul Secolo XIX c'è un articolo di Luigi Guelpa che racconta chi è David Cawthorn Haynes, rapito un anno fa. Il titolo è un po' emblematico, londinese, 45 anni, una spia al servizio di Sua Maestà. Secondo il Secolo, l'inglese sarebbe uno 007 con un passato nell'esercito britannico. Il Corriere della Sera invece racconta che l'ostaggio britannico è colui che fu rapito il 12 marzo 2013 nel campo profughi di Atmeh, nella Siria settentrionale, dove fu rapito anche Federico Motka, italo-svizzero, che poi è stato liberato il 25 maggio scorso dopo che, racconta Lorenzo Cremonesi sul Corriere, l'Italia aveva pagato un lauto riscatto di circa 6 milioni di euro. Perché si teme per il destino di questo cittadino britannico? Beh, intanto per la brutalità di chi ha dimostrato di uccidere due cittadini americani senza alcuna pietà. Ma poi racconta Lorenzo Cremonesi che appunto questo Haynes è stato rapito insieme a Motka, italo-svizzero, che non ha mai parlato della sua presenza, ed è stato rapito insieme ad altre persone. Tutti sono stati rilasciati, fa capire il Corriere della Sera, che per tutti è stato pagato un riscatto, evidentemente per David Cawthorn Haynes no. E cosa faceva Haynes? Faceva di fatto la guardia di sicurezza, il contractor, come si suol dire, per questa associazione non governativa ACTED, della quale facevano parte l'italo-svizzero Motka e gli altri che sono stati rapiti e poi però rilasciati. Allora, siamo alla conclusione? Sì, siamo alla conclusione con il solito e consueto premio La Carta Costa, l'articolo più inutile trovato sui giornali oggi. Vince in prima pagina di Libero Selvaggia Lucarelli, che racconta in un'intera pagina i baci roventi tra Buffon e Ilaria D'Amico, come la felicità attira l'odio. L'articolo per raccontare che i baci scattati e pubblicati di due persone felici, Buffon e Ilaria D'Amico, hanno suscitato l'odio su Twitter. E Selvaggia Lucarelli si chiede perché? Perché la gente non sopporta chi è felice? Abbasso chi odia la felicità, abbasso tutto questo. Ecco, infatti, abbasso tutto questo. 24 mattino. Even Joel Sotloff. I'm sure you know exactly who I am by now and why I am appearing before you. And now it is time for my message. Obama, your foreign policy of intervention in Iraq. Beh, le immagini e l'audio sono negli occhi di tutto il mondo occidentale, sono entrate prepotentemente queste immagini truci delle due decapitazioni eseguite nel giro di qualche giorno da parte dei terroristi dello Stato Islamico che sono insediati al confine tra Siria e Iraq nei confronti di due giornalisti americani, prima James Foley e l'ultimo invece che sentite in ordine di tempo è Steven Sotloff. E l'America, gli Stati Uniti che fanno? Questa è la domanda che tutti i giornali nel mondo ora si pongono, soprattutto dopo che Barack Obama fu politicamente massacrato negli Stati Uniti qualche giorno fa perché a domanda precisa rispose: al momento non abbiamo una strategia. I don't want to put the cart before the horse. We don't have a strategy yet. Non abbiamo ancora una strategia. In realtà poi si riferiva ai raid aerei sulla Siria, ma potenza della comunicazione, far sentire il comandante in capo delle forze armate americane dire non abbiamo al momento una strategia, è chiaro che lo ha portato a una valanga di critiche. E poi c'è la Gran Bretagna angosciata perché i terroristi dell'ISIS hanno mostrato quello che sarà, secondo loro, la prossima vittima. David Cawthorn Haynes, ex soldato britannico, identificato appunto come la prossima persona da uccidere. Obama ieri è in viaggio in Europa, in viaggio istituzionale, ieri dall'Estonia, ha detto: prepariamo la risposta all'ISIS. Che cosa significa in pratica? Di questo vogliamo parlare oggi. Se volete intervenire in diretta, 800 24 00 24, questo è il numero. C'è in questo dibattito anche, se volete, quale è la strategia migliore per fronteggiare questa vicenda dei rapimenti? Per esempio, la domanda annosa è una questione non secondaria: gli Stati Uniti, lo sapete, non trattano con i terroristi, e questo purtroppo comporta a volte situazioni del genere, perché in altri casi persone vengono rapite e vengono poi rilasciate a fronte ovviamente di un lauto riscatto. È giusta la linea di fermezza? Che ne pensate? E soprattutto che succederà a livello internazionale? Vogliamo parlare con Edward Luttwak, politologo che ci sente da Hong Kong, se non sbaglio. Professor Luttwak, buongiorno. Buongiorno. Così come voglio salutare uno scrittore editorialista del Fatto Quotidiano, del Gazzettino, Massimo Fini, spesso nostro ospite, ha delle idee molto molto precise e le scrive sempre sul Fatto Quotidiano. Io leggo sempre il sabato, è imprescindibile per me soprattutto. Massimo Fini, buongiorno, ciao, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, intanto è la questione, Luttwak, c'è questa strategia degli Stati Uniti? Ce l'ha Obama una strategia oppure no? Guarda, il problema non è di Obama, il problema è del mondo occidentale, che deve confrontare il problema dell'ISIS cominciando con smettere di dire le balle, smettere di dire bugie. La grande bugia è che ISIS sono una banda di stranissime persone, fanno stranissime cose. In realtà ISIS sta applicando la legge islamica. Tutto quello che fanno è in stretta conformità con la legge islamica. Per esempio, hanno tolto le croci dalle chiese di Mosul e hanno cercato di chiuderle. In Arabia Saudita, dove c'è la legge islamica, non ci sono chiese e non c'è mai stata chiesa. Quando loro hanno preso le donne dei Yazidi, se le hanno messe in vendita. Questa è la legge islamica. Muhammad ha fatto la stessa cosa. Ed è prescritta, perché i yazidi non sono monoteisti, sono pagani, quindi sono kufr, quindi non hanno diritto di vivere. Gli uomini sono uccisi e le donne sono vendute come schiave. Cioè, la prima cosa, non si può cominciare con la bugia che questi non rappresentano l'Islam, che stanno addirittura deformando l'Islam o colpendo l'Islam, che è una religione di pace. Lei dice solo. Caso di la verità, se non si dice la verità, non si confronta in fatto. Va bene, questa è un'analisi Qatar di chi sono. È la religione di Stato di Qatar e la religione di Stato di Arabia Saudita. Quindi dobbiamo prima di tutto confrontare l'origine. Perché se no non si può spiegare perché questi giovanotti in Europa se ne vanno con ISIS. Non si può spiegare. Però Luttwak, hanno loro, certo, hanno la legittimità. È inutile dire che Obama deve mandare aeroplani per bombardare. Guarda che si possono bombardare obiettivi che sono statici, che hanno alto valore, che sono alto contrasto. Individui che vanno in giro, persone che vanno in giro in uno spazio in una città come Mosul non hanno contrasto, non li puoi separare. Non li puoi, non li puoi, diciamo, identificare. Però Lutwak, Lutwak, questa è l'analisi di chi sono, secondo lei, i rappresentanti dell'ISIS. Però tutto il mondo si chiede se invece c'è una strategia e se la strategia deve essere militare, colpire finanziariamente queste persone, se è fare una guerra di civiltà nei confronti dell'Islam. Fare una strategia, non puoi fare una strategia se tu non prima di tutto definisci il nemico. E il nemico è l'interpretazione salafista dell'Islam, che viene praticata e predicata in tutta Europa, a Birmingham, insegnata in scuole e così via. Perciò i giovani vanno là. Non sono mica dei persone strane, sono andate a scuola e gli hanno insegnato questo, crescono e fanno questo, quindi questa è la cosa grande da confrontare. Due, non si può chiedere a un presidente americano, a un presidente giapponese, a un primo ministro giapponese di usare mezzi militari contro un gruppo disperso. Nota bene che ISIS dal punto di vista militare sono un grande zero, hanno sconfitto l'esercito iracheno che non esiste, i Peshmerga di grande reputazione che non si sono addestrati in 40 anni hanno sconfitto. Se ISIS si avvicina alle frontiere del Golan, perché loro sono già di fronte a Israele, se vedrai che un battaglione di giovani reclute israeliani lo distrugge tutti, sì, come hanno fatto in Gaza adesso che... Che quindi militarmente sono zero. Hanno ucciso 400 di Hamas in due giorni. Se ISIS arriva di fronte a un esercito normale, scompaiono, perché sono completamente... Quindi militarmente sono zero, però sono zero. Cosa bisognerebbe fare? Sì, certo, ma visto che lei dice predicano nelle moschee in Gran Bretagna, nelle scuole, cosa bisognerebbe fare? Sì, anche in Italia, quello che bisogna fare è di dire la verità. Cioè di smettere di dire il fatto che Islam è una religione di pace e di chiedere agli islamici di fare la riforma a livello individuale, non in genere in qualche situazione planetaria. Diciamo, l'imam a Roma, l'imam a Modena, di dire: se tu predichi l'Islam corretto, noi ti buttiamo fuori. Tu devi predicare un Islam europeo. Allora, questo è falso, è vero che è falso e non è conforme alla legge islamica, però se tu non sei disposto a dire per noi ti buttiamo fuori. Allora, questo è un punto enorme, è un punto di vista interessante, cioè al di là di dire, prima di parlare di quelle che possono essere le reazioni eventuali militari, c'è Massimo Fini, per Edward Lutwak bisognerebbe fare questa operazione di verità, secondo Lutwak, e dire a livello mondiale l'Islam salafita non è una religione di pace, queste predicazioni sono sbagliate, e l'Occidente deve prendere coscienza di questa cosa e contrastarla dal punto di vista anche culturale, oltre che immagino dal punto di vista della sicurezza. Fini. Andiamo ai sacri testi, allora nel Deuteronomio, cioè la Bibbia, c'è scritto che i cittadini di Gerico devono essere passati a fil di spada, uomini, donne, bambine, vacche, asini compresi. Non mi pare un ragionamento che possa stare in piedi. Però Massimo, abbiamo detto tante volte che la religione della la Bibbia non è alla base costitutiva di uno Stato, di un qualsiasi Stato. Va bene, ma il problema non è questo, il problema è perché gli americani stanno bombardando laggiù in una guerra civile in cui non dovrebbero assolutamente entrare, tanto più che sono all'origine della creazione dell'ISIS, perché con l'attacco del 2003 all'Iraq hanno creato le premesse per la creazione di questo gruppo, che non è affatto terroristico, perché sono guerriglieri che combattono sul campo di battaglia e non sono terroristi, perché se no sono terroristi anche tutti gli eserciti che combattono. Beh, non è terrorista decapitare due giornalisti, questo, è terroristico. No, questa è una cosa diversa, vede. I prigionieri si trattano, cioè tagliare la testa a un prigioniero e soprattutto firmarlo è un atto infame. I prigionieri si trattano con rispetto, però questo vuol dire anche che non li si umiliano, non li si mettono nudi a piramide o al guinzaglio nudi come è avvenuto ad Abu Ghraib, non li si mette in gabbie come è avvenuto a Guantanamo, non li si tortura. voglio far notare che anche i talebani, che gli americani combattono da 14 anni, hanno avuto prigionieri e tutti, dico tutti, hanno detto di essere stati trattati con rispetto. Per, sì, per la verità oggi Daniele Mastrogiacomo racconta su Repubblica la sua prigionia, la racconta in modi un po' diversi, cioè, a parte che i suoi due diciamo afghani che erano con lui sono stati decapitati, questo ha raccontato. Beh, vabbè, quando è uscito ha raccontato un'altra verità. Il soldato americano che è uscito adesso, scambiato con cinque detenuti a Guantanamo, ha detto di essere trattato con rispetto. La Cordelier della Hong ha detto di essere trattato non solo con rispetto, ma con diciamo consapevolezza delle sue esigenze di donna, e così via. Quindi i prigionieri di guerra si rispettano, ma questo non lo fanno né gli arabi, né gli arabi, che non hanno mai fatto, ma non lo stiamo facendo nemmeno noi, la civiltà superiore. Quindi detto questo e posto questo principio, ripeto, sui prigionieri di guerra, perché poi se poi non si considera più che queste siano guerre, non si dichiarano eccetera, non vale più nessuna regola. Detto questo, ripeto, non capisco perché l'America debba inserirsi in una guerra civile che non la riguarda per il momento in alcun modo. Ma non la riguarda neanche nel momento in cui due cittadini americani sono stati così brutalmente assassinati. Beh, quello che ci sta dicendo Lutwak, che non è una questione che riguarda l'America, che riguarda l'Occidente, o no, Lutwak, questo ho capito, cioè non è una questione di America. L'unico fattore qui è che quando 500.000 yazidi che sono del culto degli angeli e sono su loro di essere uccisi, persone che pretendono di essere civili devono fare qualcosa in merito. Questi yazidi, secondo, noi abbiamo un interesse nel governo regionale curdo. Se loro, poveretti, come ripeto, hanno vissuto su reputazione, non si sono addestrati seriamente. Io personalmente ho parlato con il presidente Barzani 2 anni fa per chiedergli di mettere su un programma di addestramento dei famosi Peshmerga, eccetera, eccetera. Allora noi dobbiamo intervenire per questo, non per cambiare la disposizione dell'Iraq, ma perché si scopri limitati, molto limitati. In riguardo di questa attitudine di parlare di Abu Ghraib, io, no, Abu Ghraib, tutte le persone che hanno fatto Abu Ghraib sono state processate e il capo è andato in prigione per 20 anni. Quindi non dire, da un lato loro fanno bu e tu fai bu, quindi bu vuol dire bu. Un bu di Abu Ghraib era un crimine e li hanno beccati e li hanno condannati. Mentre ISIS ottengono l'applauso della gioventù, 17% dei giovani tra 17 e 26 anni o 27 anni in Francia, o 18% hanno detto che approvano di ISIS. Abu Ghraib era un crimine, quindi quando un giornalista italiano, alla ricerca della spiegazione anti-americana della pioggia di ieri, cita Abu Ghraib, questo è semplicemente è un falso intellettuale, perché Abu Ghraib non era l'azione legittima degli Stati Uniti, era un crimine fatto. Dice, i soldati americani coinvolti. No, sì, questo che dice. Come io dico, gli italiani sono tutti puzzolenti, perché una volta in un ascensore di Napoli ho incontrato una persona puzzolente. Questo è l'argomento, che Abu Ghraib sono gli americani, non sono gli americani. Questo è chiaro. Un attimo, perché devo fermarmi per la pubblicità. Lutwak dice, insomma, i soldati di Abu Ghraib sono stati coinvolti in questi trattamenti certamente non umani nei confronti dei prigionieri in Iraq, sono stati presi e processati. Questa è la replica a Massimo Fini. Però andiamo a sentire la pubblicità, riprendiamo tra qualche minuto, ovviamente anche con le vostre telefonate. 800 24 00 24, siamo con Edward Lutwak, siamo con Massimo Fini, avremo poi collegato anche Robert Fox, giornalista britannico, esperto militare, per cercare di capire come la Gran Bretagna stia cercando di reagire alla possibile, è terribile dirlo, ma sembra davvero imminente, possibile esecuzione di un cittadino britannico. 24 mattino. Allora, siamo con Edward Luttwak e Massimo Fini. Fini, vorrei ripartire da qui. Non vede il rischio di una sorta di relativizzazione, per cui si cita appunto il soldato americano che ha fatto qualcosa che non doveva fare ad Abu Ghraib, che è stato preso per questo, per in qualche modo comprendere perché dall'altra parte si facciano certe cose? Guardi, Milan, se sento ancora un po' Luttwak, mi vado a ruolare nell'ISIS. No, sì, vabbè, perché, no, adesso no, non perché, mettiamola. No, perché questo si dimentica di Guantanamo, che non è una cosa clandestina, eh? Gente messa nelle gabbie e illuminata. Ma comunque lasciamo perdere questo. Gli yazidi, abbiamo scoperto gli yazidi, per un decennio Turchia e Saddam Hussein con le nostre armi, con le armi che gli Stati Uniti e la Francia e l'Unione Sovietica via Germania Est gli aveva dato, hanno massacrato i curdi, e cioè gli yazidi che sono curdi. Quindi adesso scopriamo gli yazidi. Il signor Luttwak, oltre a chiedere onestà intellettuale agli altri, dovrebbe averne una anche lui. E poi ripeto, sono... Cioè, diciamo, ogni situazione è frutto di azioni passate. Questo... Sì, ma poi non, che non sono solo americane, perché c'è, e qui Luttwak ha ragione, è il cosiddetto Occidente, già comunque espressione sinistra, perché ricorda Eurasia e Stasia. C'è un'Europa, ci sono gli Stati Uniti, comunque gli europei sono implicati. Chi è andato in Libia a portarvi la democrazia combinando un disastro immane? Chi è andato in Iraq con un bilancio diretto o indiretto di 650.000 o 750.000 morti? Noi ci fa orrore la decapitazione, fa orrore anche a me, però quando uno lancia un missile e uccide 300 persone da casa sua, nell'Is, nel Nevada, e poi va a mangiare, questo non ci fa impressione. Cioè, dovremmo anche noi ragionare su noi stessi una volta tanto e non pensare di essere sempre e comunque i civili e dalla parte della ragione. Siamo disumani anche noi, quelli sì, ma anche noi. Ha capito Luttwak, voglio dire, al di là della Luttwak c'è ancora, sì, al di là della battuta. Non è un problema di relativismo, è un problema di provincialismo, perché se si esce dalla zona medio orientale e si guarda il conflitto che è in corso fra i salafisti in Pakistan, dove niente, non c'entra nessuno, stanno uccidendo sciiti a migliaia, come attaccano i cristiani, prendono le donne cristiane e le obbligano a convertirsi. Lì in Pakistan non c'è stata guerra, invasione, trauma, niente di questo. Se andiamo a est di Pakistan, c'è una guerra in corso in Thailandia, Yamal, dove Yamal, i sunniti, i salafisti, i estremisti stanno uccidendo i buddhisti di, ripete, lì non c'era l'Occidente. Però in Libia, sì, non c'era l'Occidente. Quindi quando loro fanno qualcosa, un signore come il tuo interlocutore immediatamente cerca dov'è la colpa occidentale. Sicuramente ci deve essere una colpa occidentale. Forse i libici sono così perché nel 1911 l'Italia ha usato il gas e ha bombardato con bombe a gas. Se loro hanno fatto questo è dovuto al fatto che noi eravamo traumatizzati. Quindi c'è l'attitudine occidentale, del senso di colpa occidentale, uno e due. Però dall'altra parte non si può tutto. Il socialismo di non sapere cosa stanno insegnando in 38.000 moschee e scuole. D'accordo, Luttwak, non si può neanche tutto spiegare dicendo, come dice lei, siccome in Libia li abbiamo colonizzati, sono così. Però non si può neanche spiegare la storia facendo finta che in Iraq abbiamo fatto una guerra, in Libia abbiamo fatto un intervento che pochi hanno capito, e la situazione in Libia è quello che è, cioè il disastro. Cioè, ci sono a volte anche delle situazioni che vengono prodotte da delle situazioni pregresse e delle azioni che comportano delle reazioni o delle situazioni nuove che si vengono a creare. Io però vorrei salutare anche Robert Fox. Buongiorno Robert. Buongiorno. Siamo con Edward Lutwak e Massimo Fini. Tu sei un giornalista esperto militare del Evening Standard e ci devi spiegare come in Gran Bretagna il premier David Cameron intende agire per cercare di salvare la vita a questo ex soldato britannico. Aiutaci anche a capire qualcosa di più, perché oggi sui giornali italiani qualcuno dice è considerato uno 007 di Sua Maestà. E quindi chi è questo prigioniero in mano all'ISIS e cosa la Gran Bretagna intende fare? Sì, no, questo è difficile, ma personalmente non capisco il gioco di David Cameron, perché lui è come il principe Hamlet di Shakespeare, come il presidente degli Stati Uniti, che vogliono parlare, ma non possono decidere e iniziare azione. Il problema, ma il dilemma per Cameron è questo, come lei ha detto giustamente. Siccome abbiamo un vittima britannica, tutti noi giornalisti capiscono chi è un ex addetto di un NGO in Bosnia che ha aiutato molto i musulmani lì e è diventato giornalista freelance. Abbiamo in prospettiva di un britannico assassinato da un altro britannico. Esatto. In nome dell'ISIS. Ma personalmente non credo che Cameron ha molto capacità in questo affare, perché loro non capiscono dove stanno esattamente, perché esatto, però che furono almeno due raid, non solo del Delta ma anche dell'SAR per cercare di rapirlo. Però oggi per esempio sul Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi racconta che questo cittadino britannico David Cawthorn Haynes fu rapito insieme per esempio a un italo-svizzero Federico Motka, che poi è stato rilasciato dietro il pagamento di un riscatto. Ecco, qui è la domanda che ci si pone sempre di fronte a queste situazioni: trattare o no con i terroristi? Qual è la linea di David Cameron? Perché questo è come un fatto di teologia e della rubrica santa, perché loro dicono questo è basta così, perché dicono, e non è vero secondo me, che è un punto di fondi più importanti per l'ISIS, no, hanno il petrolio e altre cose. Ma loro non possono fare. Ma il problema per Cameron, perché questa settimana abbiamo il vertice dell'OTAN, del NATO, e lui deve fare qualcosa. E questo è il problema, questo è il fatto per lui, anche per Obama. Devono fare qualcosa. Per presentarsi sia contro l'ISIS, sia Putin in Ucraina. Sì. Siamo è affascinante, perché tutti e due vogliono fare una politica domestica che non hanno riferimento alle cose militari, perché hanno tagliato il bilancio di difesa, di sicurezza, perché nel centro di Britannico è una situazione drammatica, perché lui ha tagliato la competenza militare, cioè combat power delle forze britanniche, di 40% in meno di 4 anni. Quindi questo è anche una delle problematiche da affrontare. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire da questa domanda, il concetto di trattare o no dal punto di vista economico, anche con le vostre telefonate con i terroristi. Allora, prima di tornare dagli ospiti, gli ascoltatori, siete in molti a chiamare, se siete sintetici mi fate come al solito una cortesia. Giovanni da Roma, buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. Dica. Ascoltavo con attenzione la vostra trasmissione stamattina e sono contento intanto di poter parlare. Volevo dire due cose, uno a Lutwak e un altro al signor Fini. Sì. Per quanto riguarda ciò che ha detto all'inizio il signor Lutwak, ritengo condivido appieno quello che ha detto, che attualmente l'ISIS sta utilizzando praticamente ciò che effettivamente è scritto nel Corano. Per quanto riguarda due giornalisti statunitensi che sono stati decapitati, questo si tratta di prigionieri di guerra. Io ritengo che i due giornalisti non sono dei militari, dei soldati che sono stati fatti prigionieri durante una guerra a tutto spiano. Questi sono, io li ritengo personalmente dei terroristi. E per quanto riguarda quello che ha detto lei, trattare o non trattare, io sono dell'avviso di non trattare con questi. Non trattare, va bene, è molto chiaro. Grazie. Davide, da provincia di Venezia, poi le faccio rispondere ovviamente da Lutva che finì. Davide. Sì, buongiorno, spero di essere chiaro. Dunque, senza mancare assolutamente di rispetto nei confronti dei giornalisti che sono stati uccisi, per il dolore dei familiari e per la paura dei giornalisti che sono ancora nelle mani. Ma giornalisti, ma non solo, ricordiamo che abbiamo per esempio due ragazze italiane che sono rapite in Siria. Certo, per tutti, io ho un rispetto profondissimo, è una paura incredibile per loro. Mi faccio questa considerazione, ma l'ISIS deve appoggiarsi a un rapper inglese per fare questi efferati delitti, no? Questi sanguinolenti delitti, che un rapper che ha fatto dei video. Io, siccome degli americani io mi fido, ma non fidarsi è meglio, e quindi mi fido molto poco. Sarebbe eccezionale che per merito delle conoscenze del rapper stesso e per merito del sistema che ha sempre usato l'America, sì, da Kennedy alla Baia dei Porci, per dire, oppure alle armi di distruzione di massa, se in realtà, siccome io il video l'ho visto fino a un certo punto, mi dove consentito vedere, fosse una costruzione. Ma lei cosa vuol dire? Che è finto, no, tutto? No, cioè, no, che... no, io ho premesso che non voglio offendere nessuno. No, allora, però è arrivato a concludere che il video sembra una finzione cinematografica. No, non ho detto che sembra una finzione, ho detto... Non mi stupirei. C'è un inglese, sì, il comportamento americano... è sempre, ci ha fatto, perché poi non scusi Davide, mai... Davide fa un grande giro di parole, ma le faccio una domanda diretta, ma secondo lei questi due giornalisti sono stati uccisi o no? Dunque, io sono sicuro sono stati uccisi, non ne ho la certezza, io ho visto non ne ha quello la certezza. Che fa vedere, ecco, le immagini, lei ne ha la certezza? Bah, guardi, ma secondo lei l'11 settembre le Torri Gemelle sono state buttate giù dai terroristi arabi o no? Non è sicuro. Sono venute giù le torri, sì, ah, sicuramente. Vabbè, ho capito. No. No, vabbè, ma le ho chiesto. No, se lei crede che sia state buttate giù da aerei dirottati da terroristi arabi oppure no? Come sa, c'è una vastissima teoria complottista per cui non è così. Le chiedo questo. Allora, per quello che io so, negli aerei dirottati c'erano terroristi arabi, ma è quello che so io, cioè quello che ho letto. Ma ho capito, ma allora chissà se il sole esiste, cioè non sono neanche io un astronomo per sapere con certezza se il sole esiste, però Lutwak forse no, adesso lo recuperiamo. Fini, vuole rispondere sia l'ascoltatore sia questa idea possibilmente anche, cioè non si sappiamo se sono stati uccisi oppure no? Ecco, questo. Ma io non credo in modo più assoluto a queste teorie complottistiche, le Torri Gemelle sono venute giù perché un gruppo di terroristi arabi l'ha fatto, faccio notare che non c'era un afgano, così. Perché incidenza? No, perché Massimo Fini ama molto, ha scritto il libro sul Mullah Omar, molto il popolo. No, diciamo, ama molto il popolo. Sono 14 anni che facciamo una guerra lì infame e tutti se ne disinteressano, perché siccome questi non sono né arabi né tantomeno ebrei e cristiani, chi se ne frega? Detto questo, che non credo alle teorie complottistiche, vorrei rispondere all'Utwerk con le parole del sindaco di Londra ai tempi, che si chiama Livingstone, molto amato dai suoi cittadini, al tempo degli attentati londinesi, no? Poco dopo le Torri Gemelle. Sì. Lui disse, Livingstone, disse, certo, il terrorismo è una cosa inaccettabile, però se gli arabi e i musulmani avessero fatto in Gran Bretagna quello che noi inglesi abbiamo fatto per un secolo e passa nel loro mondo, io sarei un terrorista britannico. È vero, la ricordo anch'io questa frase. Ecco, appunto, voglio dire, Livingston mi pare, non mi pare sospettabile di nulla. È una persona che riconosce, perché Lutwak neanche riconosce che abbiamo attaccato la Libia alla cazzo di cane, no? Ma voglio dire, mi pare che ci sia o gli americani o veramente credono di essere sempre e comunque nel giusto, vabbè, o sono oppure, totalmente in malafede. Va bene, allora, visto che Lutwak l'abbiamo recuperato, no? Perché altrimenti want to make a career of being with the Federal. He wanted to finish that. And we finished it. The Colombians never called. No, Lutwak, però noi in inglese capiamo poco. No, qua Lutwak, c'è l'ascoltatore di prima che ci ha chiamato e ha posto anche dei dubbi, a dire: ma siamo davvero così sicuri che questi due giornalisti americani siano stati uccisi? E le chiedo anche: perché l'America non tratta mai e sacrifica le vite delle persone? Ecco, quando tu tratti come fanno la gente carina e simpatica come gli italiani e pagano 25 milioni di dollari, loro stanno dando 25 milioni di dollari per organizzare il ratto di rapimento di ulteriori persone. Tutto il problema della pirateria in Somalia è esploso perché a un certo punto i sauditi hanno pagato 50 milioni di dollari per un tanker enorme che valeva molto di più. Con 50 milioni di dollari gli imprenditori della pirateria somala hanno moltiplicato i loro sforzi. Il governo italiano ha speso i soldi del contribuente italiano per riscattare la Sgrena, che era andata in Iraq per fare polemiche contro il governo italiano e la sua partecipazione in Iraq. Questa è una gran bella cosa, vuol dire che siete veramente compassionati, cattolici e tutto il resto, ma quando tu dai milioni di dollari a gente che rapiscono persone, loro ne rapiscono di più. E infatti nella legge italiana, in Italia, non è permesso di dare soldi ai rapitori. Gli americani, gli israeliani e i britannici non danno soldi. Il risultato è che i loro cittadini sono presi molto meno dei francesi, tedeschi e italiani. Però quando vengono presi poi succede. Sì, perché se tu hai una persona italiana che si alza a Modena, Parma o Napoli, invece di andare a Napoli per aiutare a pulire le strade di Napoli, lui si fa volontario in Siria, in Iraq, per aiutare i siriani o gli iracheni. Io che io sappia, i siriani non sono mai venuti aiutare, non so, in un terremoto italiano. Non mi viene neanche in mente di lasciare il loro paese per aiutare gli italiani con un terremoto. Se un italiano vuole lo spirito di aiutare e così via, che vada a Napoli, dove c'è questo sindaco che solo chiude strade e non fa niente, invece di andare Napoli da sola può assorbire tutta la buona volontà che si può generare in Italia, e quando li prendono a Napoli, alla Camorra e così via, suppongo che la legge italiana applica e non si darebbero soldi. Insomma, non dovrebbero andare in Siria e in questi paesi. Mi devo fermare qui. Ringrazio Edward Lutwak, Massimo Fini e Robert Fox. Sono le 9:06. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Come sapete, cari ascoltatori, fino al 15 settembre, stavo dicendo fino al 15 dicembre, no, per carità, fino al 15 settembre andremo in onda fino alle 9:30 e poi rientreremo nei nostri ranghi fino alle 9. Ma vogliamo parlare di tasse? Ebbene sì, non vi vogliamo rovinare questo mercoledì 3 settembre, ma tanto italiani sapete che ad autunno inizia il periodo delle tasse, la TASI su tutte, ovviamente sul Sole 24 Ore potete sapere città per città quanto dovete pagare, i dubbi, il rebus degli acconti, il rebus dei saldi. Sta di fatto che tre sono i tributi che incombono, soprattutto la TASI, appunto, la TARI e l'IMU, se c'è ancora, se la dovete pagare. Ovviamente non l'IMU sulla prima casa, e quindi la TASI, la TARI, quella sui rifiuti. E che succede? Che gli italiani sono alle prese con queste cose, ne vogliamo parlare chiaramente. Ecco, per esempio, diteci e telefonateci, cari ascoltatori, all'800 24 0024 per capire secondo voi, se avete fatto i calcoli, se pagherete di più rispetto agli altri anni oppure di meno. Due giorni fa il responsabile economico del Partito Democratico, il professor Taddei, ci ha detto a questi microfoni che mediamente la TASI costa mediamente il 10% in meno rispetto alle tasse dell'anno scorso. Poi è chiaro, comune che vai, tassa che trovi. A proposito, comune che vai, tassa che non trovi, si potrebbe dire in alcuni casi, come avviene a Positano, dove saluto il sindaco Michele De Lucia. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli italiani. Allora, Michele De Lucia insieme a Guido Castelli, che saluto, è il sindaco di Ascoli, è delegato all'ANCI, alla finanza locale. Buongiorno sindaco. Buongiorno a loro, buongiorno. Allora De Lucia, lei che ha fatto? I più benevoli o i più malevoli l'hanno accusata di fare una mossa, ovviamente in vista elettorale, credo ci siano le elezioni l'anno prossimo. Lei di fatto ha cancellato la TASI, cioè a Positano ha deciso che i cittadini non pagheranno la TASI, è così? Diciamo di elettoralistico a ben poco, tant'è vero che noi a maggio abbiamo rispettato la scadenza e avevamo già azzerato la TASI per seconde case e attività diverse, per cui ripeto a tutti quelli che in questi giorni, da ieri, stanno dicendo di una mossa elettoralistica, io spero di fare bene il sindaco Positano e nient'altro. Ma perché l'ha cancellata questa TASI? Nata perché, come ho già detto molte volte, per me è una tassa iniqua, è una tassa che il governo centrale ha voluto delegare ai sindaci, quest'altra tassazione, per mascherare quelli che sono le esigenze del governo, che trasferisce sempre meno agli enti locali. E lei così però si è tagliato ulteriormente altre entrate nel comune, no? A quanto ammonta, cioè a quanto rinuncia tagliando la TASI? Diciamo che la TASI, applicando i termini massimi che ci dà il governo, avremmo riuscito a prendere anche 1,2 milioni. Diciamo non è questo il dato importante. Avrà dei servizi anche lei da portare avanti. Noi abbiamo dei servizi e, essendo un comune internazionale, li faremo sempre al massimo come l'abbiamo sempre fatto. È chiaro che troveremo le risorse in altro modo, principalmente tagliando quello che è la spesa corrente, come abbiamo fatto già in questi 4 anni. Questa è una ricetta che voglio subito girare, tra l'altro devo correggermi, giustamente molti mi mandano un messaggio, non so perché ho detto che oggi è mercoledì 3 settembre visto che è giovedì 4, vabbè, ma comunque Castelli ha sentito il sindaco, sente il sindaco di Positano che dice: noi rinunciamo a 1.200.000 euro che avessimo applicato i massimali e quello che avremmo potuto tirare su con la TASI, ma per esempio troveremo le risorse in altro modo, riduciamo la spesa corrente. Che bella lezione, che se fosse applicata a livello nazionale, eh? Meno tasse ma meno spesa da parte, meno spesa pubblica. Non sarebbe un bel sogno. Un sogno è quello che una parte consistente degli amministratori locali italiani provano di fare, con risultati, esiti alterni evidentemente, che però non fanno brillare di meno l'ottima, come dire, azione del sindaco di Positano, che saluto e con il quale mi complimento. Diciamola tutta, da qualche anno è invalso uno sport che sicuramente merita di essere criticato, ovvero il governo nazionale, parliamo dal Salva Italia di Monti, ha sostenuto la seguente tesi: io teoricamente non aumento le tasse a livello nazionale, però scarico sui comuni quasi l'obbligo di farlo, tagliando risorse ai comuni stessi e dando ai comuni, come dire, capacità fiscale, ovvero possibilità di procedere alle spremiture che di qui a qualche settimana riguarderanno un po' tutti gli italiani. Sa però a questa accusa Taddei cosa mi ha risposto? Abbiamo fatto proprio questa domanda due giorni fa. Lui ha detto: i comuni che dicono così, cioè lo Stato non mette tasse però dà meno soldi agli enti locali e poi gli enti locali sono costretti a chiedere soldi, non sono costretti a chiedere soldi, risparmino. Oh, spendano meno, gestiscano meglio i propri comuni. Taddei ha ragione, se non fosse che anche lui fa lo stesso errore suo, pensa di essere un giorno prima, anzi lui un anno prima, mi spiego, lei parlava di mercoledì 3 settembre, Taddei omette di ricordare che questo tipo di cura ormai procede da circa 5 anni, negli ultimi 5 anni i comuni hanno fatto questo tipo di lavoro, tant'è vero che hanno contribuito ai saldi di finanza pubblica per 16 miliardi di euro in 5 anni, allora il primo anno va bene perché poi diciamola tutta, è giusto che i comuni contribuiscano al miglioramento dei saldi, il primo anno è andata così, il secondo anno è andato così, noi siamo al sesto anno di spending review e allora riduciamo il turnover nel senso che non riassumiamo le persone e allora ritocchiamo i contratti di servizio e allora rinegoziamo i debiti e allora tagliamo la spesa di energia, energia elettrica, termica e quant'altro, ma alla lunga insomma l'osso troppo diventa tardi, quasi troppo tutto scolpato. Però allora, lei Castelli ha fatto i complimenti diciamo al sindaco di Positano, però ad Ascoli Piceno per esempio com'è? C'è la TASI allora, ovviamente. Sì, certamente, no, il discorso è stato questo, Ascoli Piceno è stato fino all'anno scorso in regime di IMU, il comune capoluogo con l'IMU più bassa d'Italia. Cosa è successo? Introducendo la TASI, lo Stato ha dato una bella fregatura ai comuni che non avevano messo l'IMU al massimo, perché hanno detto loro di, come dire, aumentare le tasse per garantire che anche la nuova TASI potesse dare lo stesso gettito dell'anno scorso in regime di IMU, mentre invece ha stabilito una compensazione finanziaria, cioè ha dato soldi, soldoni sonanti, proprio a quei comuni che avevano le aliquote al massimo già negli anni scorsi e che quindi non potevano inasprire ulteriormente le aliquote, quindi più soldi a chi aveva tassato di più, non soldi, quindi necessità di procedere a un aumento delle aliquote a chi aveva dato di meno, ma è un'altra la questione TASI che probabilmente genererà tanta, come dire, acrimonia e inquietudine ulteriore nelle popolazioni, che la TASI è fatta in maniera tale che coloro i quali hanno le case di rendita maggiore più e di maggior valore avranno diciamo un impatto minore, infatti, cioè le case più piccole pagano più. Allora io mi sono premurato soprattutto di fare questo, di evitare che ci fosse questo effetto Robin Hood all'incontrario e quindi ho dovuto caricare in qualche misura sulle case più di pregio e di maggior blasone di rendita finanziaria quel costo che mi consente invece di scaricarlo, diciamo, di non penalizzare le più piccole. Esatto, però io vorrei tornare per un attimo al sindaco di Positano, Michele De Lucia. Sindaco, lei allora dice la mia ricetta è no a chiedere le tasse come la TASI, ma ridurre invece, trovare le risorse riducendo la spesa corrente. Ha sentito che Guido Castelli dice ma noi comuni è da anni che siamo già in regime di spending review, lo Stato centrale ci chiede troppo. È davvero così o si può fare? È caduta la linea. Allora sentiamo un ascoltatore, Stefano da Roma, poi recuperiamo il sindaco di Positano. Stefano, Milan, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'intervento. Allora Milan, qui siamo al paradosso. Sì. Io ho una casa occupata. Cioè in che senso? È stata occupata. Cioè lei è proprietario e gliel'hanno occupata. Benissimo, abbiamo fatto la pratica di sfratto. Con l'avvocato, quindi tutti i tempi e tutti i costi da sostenere, le Poste Italiane si sono persi la raccomandata di ritorno spedita dall'ufficiale giudiziario. Già sono tre mesi che abbiamo fatto due richieste con file interminabili per avere il duplicato di questa ricevuta che non arriva. Se non arriva la ricevuta, lo sfratto non si può eseguire. Ma questo è un dettaglio. Un dettaglio non di poco conto. Una di quelle piaghe della burocrazia che poi vai a risolvere. Comunque dobbiamo affrontare tutte le spese condominiali, eccetera, eccetera. Io volevo sapere, su questo immobile ci devo pagare l'IMU? Guardi, è una domanda. Io la giro a Castelli. Castelli, temo se è responsabile, lo saprà. Insomma, temo di sì. Che essendo il proprietario, anche se è incappato in questa situazione tipicamente italiana, irrisolvibile solo in Italia, no, deve pagare l'IMU. Non solo deve pagare, ma questa beffa va ricondotta a quella che è una situazione che i proprietari di case in Italia sanno bene, che in Italia la proprietà immobiliare spesso non è tutelata, perché ci sono decine e decine di migliaia di case occupate. Se qualcuno rivendica il proprio sacrosanto diritto di disporre della propria proprietà, spesso si vede comitati e sindacati protestare a più non posso, e se va in giudizio deve scontare tutto quello che sappiamo in termini di lungaggini. No, certo, in più questa cosa. Ma a Roma ci sono situazioni che sono anche sostenute, fra l'altro, da alcuni pezzi, diciamo, della classe dirigente. Quindi purtroppo è una pagina di questa triste situazione. Questo è il dato di fatto molto triste. Abbiamo recuperato il sindaco di Positano, Michele De Lucia, eccoci qua, sindaco. Si può fare allora continuare a limare spesa corrente, oppure il sindaco Castelli ci dice che non è un po' troppo, no? Tutta questa spesa. Il sindaco Castelli ha detto tutte cose giustissime. Per cui il ragionamento è questo: gli enti locali stanno in una condizione veramente tristissima. È chiaro che Positano è un comune virtuoso perché ha un avanzo di amministrazione importante e si è potuto permettere questo tipo di provocazione, ma è una provocazione per far vedere contro il governo che deve cambiare sistema. Cioè, hanno lasciato gli enti locali, i sindaci, come unico baluardo verso i cittadini. I cittadini riconoscono solo la figura del sindaco, perché oltre il sindaco non c'è più assolutamente niente. È chiaro che tutti i comuni che possono fare un discorso del genere, io direi uniamoci per non applicando la tassa. Cioè, perché lei ma è chiaro. Il governo a rivedere i suoi atteggiamenti. Però a me piace la sua posizione di dire, lei lancia il messaggio comunque, come dice Castelli, al governo e allo Stato centrale, a dire non abbandonate gli enti locali, su cui scaricate l'onere di chiedere di spremere i cittadini. Però d'altra parte lei dice anche si può continuare a tagliare la spesa dei comuni, cioè voglio dire, come lo fa lei a Positano, potrebbero farlo anche altri comuni? Ma io sono un po' più drastico, io dico chi non sa amministrare non si deve più candidare, ma questo dai comuni a poi arrivare al Parlamento. Io dico bisogna fare un buon governo dagli enti locali fino, ripeto, a chi fa le leggi in Parlamento. Oggi abbiamo un Parlamento di nominati che, devo dire la verità, va assolutamente superato con una nuova legge elettorale, ma non una legge elettorale seria, che chi va a rappresentare gli italiani sappia di cosa si deve parlare, di che cosa si ha bisogno. E quando lei dice di tagliare la spesa corrente, a cosa pensa? Cioè, cosa pensa di tagliare? Ma noi non servizi, non servizi, no, immagino. Servizi, no. Le ripeto, purtroppo non li posso tagliare, perché siamo un paese sotto gli occhi di tutto il mondo, per cui cerchiamo assolutamente di farli sempre, però cerchiamo di capire dove ci sono delle sacche di spreco, tanto capitolo per capitolo, risparmiando anche quei pochi euro su ogni capitolo. Poi è chiaro che in questi giorni approveremo anche il bilancio di previsione, se avremo necessità, visto che abbiamo l'IMU sulle seconde case e gli usi diversi a 8 e 6, se non riusciremo a recuperare tutto quello che dobbiamo recuperare, penseremo ad un piccolo aumento e portarlo sul 9 e 6 l'IMU, sì. Per diverse. Va bene. Ripeto, ma è un sacrificio minimo, visto che abbiamo abolito la tassa anche per le attività. Io vorrei sentire Anna dalla provincia di Milano. Buongiorno Anna. Buongiorno. Volevo chiedere questo: come prima casa si paga la TARI da tassi, e ok. Per la seconda casa si paga anche la tassi oltre alla TARI e l'IMU? No, la Tari mi risulta che è dovuta a chi occupa l'immobile, non so, Castelli. Ho pagato l'IMU e la Tari, TASI, che sarebbe i servizi indivisibili, quindi destinata ai cittadini. Visto che pago l'IMU per avere quella casa lì, anche la TASI mi viene chiesta? Insomma, sindaco Castelli, ci aiuti lei. Io so che la TASI va suddivisa tra proprietario, che paga tra il 70 e il 90%, e l'inquilino. vicino. L'Atari è dovuta da chi occupa l'immobile. Però, esatto. Quindi che deve fare la signora? Io esattamente così. Allora, sugli immobili diversi dalla prima abitazione non si paga evidentemente la TASI che spetta all'occupante. Sì. La TASI è una facoltà dei comuni prevederla, sempre che l'IMU non sia già al massimo, al 10,6. In quel caso non si paga TASI. In pratica la somma tra TASI e IMU sulle immobili diversi dalla prima abitazione non può superare il 10,6. Quindi dipende da quello che sul sito del comune sarà entro il 10 settembre, comune di residenza della signora o comunque dove si trova l'immobile, sarà possibile decrittare. Mi rendo conto che questo pasticcio all'italiana crea un rebus assurdo, perché noi dobbiamo dire in maniera molto forte e chiara che quello che oggi ha fatto il sindaco di Positano, ieri lo aveva fatto il governo quando non si è pagata l'IMU sulla prima casa. E vabbè, ma lì ci fu un dibattito politico che arriva Berlusconi, la toglie, arrivano gli altri, no, la rimettono. Però è molto curioso che ieri molti facevano i corifei del no al pagamento, a questa misura così demagogica, e oggi invece si dice però dobbiamo pagare la TASI sulla prima casa. Purtroppo sono questi caroselli all'italiana. Ma noi abbiamo mai fatto Castelli una cosa semplice in materia fiscale? Voglio dire, no. Io quando arriva il momento delle tasse mi vengono dei mal di testa preventivi che dico non voglio saperne niente, pago di più chi devo pagare per togliermi l'impiccio. Pago e taso. Esatto, paga e tasi. Lei lo sa che la normativa sulla finanza locale, quindi sulle tasse immobiliari, è cambiata 38 volte negli ultimi 5 anni. Solo? Lo stesso mal di testa occupa il cervello dei nostri ragionieri, vittime, però veramente non se ne può più di un pavimento sconnesso che cambia ogni minuto, dottore, ogni minuto noi dobbiamo cercare di capire come dobbiamo proiettare queste maledette aliquote. Noi siamo veramente stufi, perché non è che ci viviamo granché bene nel pretendere soldi dai cittadini, noi li incontriamo i cittadini, mentre loro signori romani probabilmente ne hanno un'idea un po' rarefatta. Sì. Io faccio 12 passi al massimo, questa è la mia teoria, la teoria dei 12 passi, e dentro 12 passi c'è un cittadino che mi rende e chiede conto di quel che faccio. Vabbè, su questo mi sembra che siete abbastanza d'accordo, cioè i sindaci lasciati, d'altronde i sindaci sono quelli che poi è il bello o il brutto della politica, sindaco Castelli, sono quelli che si devono anche procacciare i voti, devono rispondere ai cittadini, vengono eletti dai cittadini. Quindi, gli algoritmi migliorano quando sono sollecitati, voglio dire che forse un po' di sollecitazione la meriterebbero anche coloro che stanno in via 20 settembre. A chi penso? Proprio al ministro Padoan? Sempre è il totem di purtroppo negli ultimi anni. In Roma, lei identifica Roma come la parte per il tutto, via 20 settembre parte, per Roma. Una sinedoche. Mario da Pescara, buongiorno. Buongiorno, sento, volevo fare due osservazioni e considerazioni, visto che nei comuni ogni volta che ci sono le elezioni c'è una corsa, diciamo, affannata dei candidati delle varie correnti, che è giusto che sia. Come è stata introdotta la responsabilità civile per i giudici? Io penserei di introdurre anche una responsabilità penale o civile anche per gli amministratori che non riescono a gestire le risorse del loro comune, perché loro possono in qualche modo disporre di queste somme che hanno a disposizione, però poi lo ributtano sempre su noi cittadini, e quindi alla fine a loro non costa nulla. Sì. Diciamo, Mario, però devo dire una cosa, che in democrazia, ma chiedo a lei e agli interlocutori, non basta nella democrazia, per esempio, l'elezione del sindaco, quando lei a Pescara va a votare e sceglie il suo sindaco, non basta semplicemente presentarsi alle urne e punire con il non voto chi secondo lei ha amministrato male. Mario, che dice? Questo potrebbe essere questo è il succo della democrazia, però, no? Il coltello dalla parte del manico ce l'hanno sempre le persone che vengono elette in qualche modo, perché loro non hanno nessuna responsabilità. Negli anni passati hanno assunto in maniera sconsiderata personale nei vari comuni, e adesso per clientelismo e altre cose, adesso questi dobbiamo pagarli noi, e non mi sembra giusto. Come per esempio nelle aziende private ci sono i contratti di solidarietà, cioè, e non riescono a pagare perché non ci sono i fondi nelle società, anche nei comuni, se un comune non ha i fondi per poter pagare i propri dipendenti non può assumere. Su questo la seguo. Per esempio, sindaco di Ascoli Castelli, non è che magari si può ancora limare, non è che vogliamo togliervi anche il sangue dalle rape dei comuni, ma per esempio tutte queste municipalizzate dove in Italia si mettono questi politici trombati per cui si fanno delle società che poi sono regolarmente in perdita o in rosso, ecco, lì forse c'è la responsabilità di quel clientelismo a cui faceva riferimento Mario. Assolutamente, nella storia d'Italia il clientelismo è stato l'ospite inquietante, per parafrasare qualcuno, che ha accompagnato la gestione della cosa pubblica. Devo dire però l'ascoltatore di Pescara non è informato, in quanto le sanzioni esistono, sono sanzioni molto precise, non sono quelle penali che conseguono, come si sa, al dolo, ma anche di carattere contabile, per esempio, ad esempio, se non si rispetta il patto di stabilità. Ci sono sanzioni dirette, personali, che vanno anche verso la decurtazione degli stipendi, delle indennità che noi percepiamo, che non sono fra l'altro molto alte. Io, sindaco di un capoluogo, prendo 2.600 euro netti al mese, che non sono poche, sono, penso, giusto, visto che ormai mi tocca fare solo questo. Ora, credere che oggi non ci sia un profilo di responsabilità è sicuramente sbagliato. È evidente che noi però ci dobbiamo far carico anche di quella che è stata la cattiva fama che la classe dirigente italiana, come dire, ha accumulato nel corso del tempo. Sulle municipalizzate ormai da 4 anni non possono essere più nominati soggetti che hanno avuto a che fare con le cariche elettive, perché quindi è da un po' che ormai ci si è mossi, giustamente nella consapevolezza che non si può scaricare sul cittadino quelle che sono le antinomie della politica. Però diciamo che dobbiamo adeguare anche il nostro grido di dolore, parlo dei cittadini, ad una situazione in cui davvero, se non ne usciamo con la spesa pubblica. C'è il cellulare, che nell'ultima parte dell'intervento ha fatto un po' le bizze, ma abbiamo comunque capito, sindaco. Vorrei sentire Marco da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, sono Marco da Bergamo. Io volevo esporre questa mia arrabbiatura, diciamo, che sono proprietario di una casa che è vuota e abito dai miei genitori per motivi personali e ho la residenza lì. È possibile che io devo pagare la mia casa vuota, che sono di unica proprietà, IMU come seconda casa, cioè pago 1.200 euro all'anno come seconda casa, che io sono proprietario di una casa, non di due. Vivo dai miei genitori per motivi personali, ho la residenza lì, ma non è mia quella casa. E perché io devo pagare IMU come seconda casa, come proprietà di seconda casa? È una cosa. È una cosa che hanno molti italiani e che hanno fatto registrare, Marco. Ci sono altre persone che sono nella sua situazione, e cosa devo fare? Posso accogliere solo il suo sfogo, il suo appello? Non lo so, lo giriamo a Renzi, che possiamo fare? Lo giriamo a Padoan. Però accolgo questo sfogo, che dire, e mi fermo qui nel ringraziare Michele De Lucia, che è il sindaco di Positano, così come ringrazio Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno e delegato all'ANCI, quindi l'Associazione dei Comuni Italiani, alla finanza locale. Allora, voi potete scriverci a 24 mattino e radio24.it, abbiamo i profili Twitter, c'è 24 mattino, c'è anche il mio personale profilo Twitter, Alino Milan, se volete seguirmi, quello sono io. Ringrazio Miriam Lucchetti in redazione insieme ad Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi e il nostro Peter Bescapè, che è in regia. Oh, ma siete andati sul sito Cuffie d'Oro, cuffiedoro.it, che ci sono le nomination per i migliori show mattutini, c'è anche la nomination di 24 mattino, eh? Non votate la Zanzara, mi raccomando, che loro sono già più avanti di noi. Votate 24 mattino, cuffiedoro.it, andate lì e votate 24 mattino. Guardate che vi controllo, vi controllo. A domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.